si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Se non te scerri mai delle radici catieni, rispetti pure dei paesi lontani. Se non te scerri mai delle tue decaglieni, dai più valore alla cultura catieni. Siamo talentini dell'umano cittadini, radicali all'inestabili, culi greci e bizantini, uniti in tasto stile, oce, culi giamaicani. Dimmi delle tue decastatieni. Yo, è il mio dello salento e qua non può non parlo dialetto. E non vede filo no, che all'italiano non lo saccio. Casa mi metto con rifletto, parlo lo giamaicano scritto. Perché l'importante è questa in poco di tutto. Noi non possiamo abbandonare un'intera generazione di giovani, non possiamo abbandonare il meridione del nostro paese, non possiamo dimenticare che il lavoro per tutti è un principio della nostra Costituzione. Dobbiamo smettere di pensare che il mezzogiorno sia solo una zavorra e dobbiamo dunque avere fiducia nelle possibilità delle università meridionali, delle scuole, in generale del sistema e dell'apparato dello Stato. Dobbiamo ricominciare a fare le ferrovie, per esempio la Roma-Salerno ha ancora un binario per buona parte ed è quello dell'Ottocento. E una terza cosa che farei è fare una bella lotta alla mafia in tutto il paese, perché Milano, Torino, Venezia, Bologna, soprattutto Roma sono diventate luoghi di insediamento di organizzazioni mafiose molto potenti che frenano lo sviluppo di tutta l'Italia e in particolare del resto. Buonasera cari ascoltatori, buonasera da Alessio Maurizi, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare 18, 20 e 30 insieme ai vostri interventi anche di venerdì sera 800 24 00 24, anche la pagina Facebook va Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è @ Si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Allora, spiagge piene, la notizia bella, buona, positiva di oggi è che i balneari dicono è la migliore estate da 10 anni a questa parte. Record di presenze in Campania e Sicilia, più 30%. Eppure, solo ieri un rapporto economico ci ha ricordato, diceva prima anche il presidente Mattarella, che insomma il mezzogiorno d'Italia va a rotoli, una crescita del PIL in 10 anni inferiore a quello della Grecia. Siamo messi malissimo. Allora, insomma, ci chiediamo: ma com'è possibile se da un lato ci dicono che le spiagge sono piene, che il turismo sta ripartendo soprattutto nelle spiagge del sud del meridione e poi l'economia va a rotoli? Allora vi chiediamo, cari ascoltatori, se siete in viaggio, in vacanza, se ci siete appena stati e tornati al sud, ve li fanno gli scontrini fiscali? Chiamateci 800 24 00 24 perché un'ipotesi potrebbe essere questa: l'economia va a gonfie vele ma è tutta economia nera, chi lo sa? 800 24 00 24. Sentiamo ancora qualche voce su questo dibattito che ritorna sul sud. Che abbiamo? Abbiamo D'Agostino. Vai in Sicilia, hanno delle cose che il British Museum se le sogna, ti metti in ginocchio, di Siti UNESCO, certo. Sappiamo tutte quelle cose là. Beh, prova ad andare in un albergo, guarda che servizi ti danno, albergo a 4 stelle con i bicchieri di plastica, peggio che da Cairo, c'è una cosa unica, cioè non hai idea. Negli hotel 4 stelle con i bicchieri di plastica, peggio che al Cairo, dice D'Agostino. Non so se racconta per far ridere o se è un'esperienza vera, concreta la sua, è possibile. È possibilissimo. 800 24 00 24, anzi chiamateci per raccontarci la vostra esperienza in questo momento proprio di turismo anche nel nostro sud Italia. Ancora, voci. Dopo 60 anni dovremmo renderci conto che il sistema dei trasferimenti non funziona. Non funziona che quello che in un'economia divisa in due la parte, diciamo, che va bene trasferisce costantemente, continuamente i soldi a chi va male, perché si crea sottosviluppo dalla parte invece nella parte del meridione, perché un'economia assistita non funziona, e si crea incazzatura nella parte del settentrione, perché giustamente uno dice io non vorrei continuamente pagare qualcun altro. La stessa cosa sta succedendo in Europa. Sai un poco di tutto. Questi era Borghi, economista della Lega, che cioè, il problema sta nell'assistenzialismo. Ancora nell'ultimo decreto varato dal governo, il decreto sugli enti locali, ci sono i tagli per la sanità da una parte, 2 miliardi e 300 milioni, lo sapete, e dall'altro 500 milioni per la Sicilia, che hanno fatto infuriare la Lega. Difficile dare torto a chi ha questo punto di vista, se non altro perché i numeri dimostrano che questi soldi non servono a far ripartire, non sono serviti fino ad oggi a far ripartire l'economia del sud. Sarebbe interessante capire dove comincia il sud, comincia da prima o dopo di Roma? È evidente che Fiumicino è a mio sommesso avviso un hub fondamentale per il futuro del paese. Vabbè, parole di circostanza queste di Renzi, il presidente del Consiglio, un'altra tegola su di lui, sul sindaco Marino, insomma, su tutti, soprattutto sui turisti, poveracci. Sentiamoli un po' i turisti, anzi, prima sentiamoli i turisti, ce l'abbiamo le voci. Io ho dormito col sacapelo per terra, neanche l'acqua, eravamo 400 e passa persone stipate qua, donne incinte, bambini piccoli, anziani, 4 giorni per 2 ore di volo, ma stiamo scherzando, e adesso probabilmente saranno 6 giorni per 2 ore di volo perché si è tutto cancellato. Io non ho parole. Vabbè, su Fiumicino le parole sono abbastanza pesanti e anche un po' definitive del numero uno di Alitalia, Cassano. Noi non vogliamo abbandonare Fiumicino, è il mercato che abbandona Fiumicino se non si fanno delle cose. Peccato che solo 2 mesi fa circa siamo andati a ripescare questa voce di euforico e ottimismo del premier Renzi quando si presentò il nuovo logo dell'Alitalia e insomma queste erano le attese. Allo stesso modo voi allacciatevi le cinture, Alitalia decolla. Ma il decollo di Alitalia è il decollo dell'Italia, il decollo dell'Italia è il decollo di Alitalia. E allora, lasciatemelo dire, se vola l'Italia, viva l'Italia. Non è un gioco di parole che farà contento Crozza. È l'unica vera chance che voi avete. No, invece è proprio un gioco di parole che fa contenti tutti i comici al momento, perché come fai a non ridere a sentire adesso queste parole? 2 mesi dopo, sì, va bene, col senno di poi è facile, però risentiamolo. Allo stesso modo voi allacciatevi le cinture. Alitalia decolla, ma il decollo di Alitalia è il decollo dell'Italia, il decollo dell'Italia è il decollo di Alitalia. E allora, lasciatemelo dire, se vola l'Italia, viva l'Italia. Non è un gioco di parole che farà contento Crozza. È l'unica vera chance che voi avete. Si può fare. L'attualità, anche d'estate. Se non te scegli mai delle radici catieni, rispetti pure dei paesi lontani. Se non te scegli mai delle tue decaglieni, dai più valore alla cultura catieni. Siamo talentini dell'umano cittadini, radicali all'inestabili, culi greci e bizantini, uniti in trasso stile, oce, culi giamaicani, di me delle tue decastapieni. Di nuovo buonasera a tutti cari ascoltatori da Alessio Maurizio, 800 24 00 24, vi aspettiamo per i vostri interventi. Il Sud Italia, dunque, peggio della Grecia. Allora noi ci rivolgiamo a un grande intellettuale, a un professore di sociologia, autore di numerosi libri, il padre dell'ozio creativo, Domenico De Masi, buonasera. Buonasera a voi. Oh, però chiariamo subito che quando lei ha parlato di ozio creativo si riferiva non al tempo libero perché non c'è lavoro come adesso, no, cioè a un'altra cosa. Mi riferivo non al non fare nulla, ma a fare 3 cose contemporaneamente, quello che stiamo facendo lei ed io in questo momento, cioè lavorare per creare ricchezza, sì, studiare per creare conoscenza e divertirsi per creare benessere. E invece adesso quello che succede nel sud è che purtroppo, che succede nel sud? È tutt'altro. No, nel sud succede che in un paese che ha uniche leggi, stessa democrazia, stesso Parlamento, c'è una regione come la Lombardia che è il doppio di prodotto interno lordo pro capite della Campania, per esempio. Pro capite, cioè pro capite, non capite, attenzione. Sì. No, ma è quello vero, è quello che ci dice la ricchezza, cioè quanto in media ciascun meridionale possiede, di quanto dispone, è giusto la metà, sì, che in Lombardia. Siccome le leggi sono uguali, sì, siccome il sud è al centro del Mediterraneo, significa al centro tra il nord e il sud, tra l'est e l'ovest del mondo, siccome ha risorse di ogni genere, climatiche, paesaggistiche, storiche, artistiche, beh, significa che c'è qualcosa nel sud che non funziona. Oddio, attualmente il sud è anche un po' al centro del traffico, per esempio, di profughi, di immigranti, che sì, potrebbe essere una risorsa, in molti casi lo sono gli immigrati una risorsa quando entrano come forze produttive nelle nostre attività economiche, però in tanti altri casi sono solo problemi, insomma, un guaio. No. Ma dipende da come si gestisce il rapporto sia con sì. l'est che con il sud. Se si gestisce soltanto come luogo di arrivo di disperati è una cosa, se si gestisce come leadership di un'area comunque importantissima è un altro paio di maniche. Noi nel sud sì. non stiamo dimostrando di saper fare questo, non stiamo dimostrando di saper trovare le leadership giuste. D'altra parte nel governo, se lei ci pensa, sì. essendo il sud un terzo di tutta la popolazione mondiale, non c'è un terzo di ministri, ce ne saranno uno o due, sì e no. Cioè lei dice che anche il governo sta sottovalutando in qualche modo il problema. Ha molto più in considerazione le quote rosa, che sono sacrosante, per carità, che non le quote geografiche, che sarebbero altrettanto sacrosante. Dice che se l'è scordato Renzi o è una scelta voluta per ingraziarsi un certo no, tipo di elettorato? Se lei prende il treno capisce che non si tratta più di un caso, il treno si fermerà a Salerno, poi di lì in poi è come stare nel Sahel praticamente. Questo significa che tutte le autorità del sud, per esempio i governatori delle regioni, non sono stati capaci di fare una politica comune e pretendere cose sacrosante, ma significa pure che c'è un governo che d'altra parte non lo fa. Il sud è detentore delle quattro multinazionali del crimine più potenti al mondo, insieme alla mafia cinese e a quella russa. Bene, quattro multinazionali del crimine che lo Stato non riesce a debellare. È da lì che bisognerebbe ripartire, perché per esempio una da due parti, da lì sì. e dalla formazione, cioè dalle università. Lei pensi per esempio la Campania ha 200.000 studenti universitari e 7.000 professori. Ora Garibaldi con 1.000 persone riuscì a fare l'unità d'Italia, l'unità della missione del Sud. 200.000 giovani solo in Campania, se fossero coltivati bene come potenza proprio straordinaria, come motore di innovazione, già da soli potrebbero riscattare una regione come questa. Però adesso noi faremo sentire tra un po' il caso di un titolare di un grande bar-ristorante di Napoli che non riesce a trovare camerieri, baristi, fattorini. Glielo assicuro, abbiamo sentito. Mi dica l'indirizzo e gliene mando una decina io. Piazza del Municipio. Che si figuri. Adesso lo sentiremo, se vuole poi lo può sentire con noi, tanto lo ingaggeremo tra non molto, perché lei parla di studenti universitari, però forse c'è bisogno anche di gente che faccia lavori come quelli, no? Guardi, quindi come molti miei laureati sì. fanno mestieri umilissimi, oggi i giovani sono disposti a fare tutto. Io ho due laureati con 110 e lode, uno con master a Londra, che fanno i camerieri a Roma. Si figuri, è una favola questa dei fannulloni e dei mammoni che non riescono a fare null'altro, assolutamente. A lei non risulta che no, ci siano. Assolutamente. Io passo il tempo con i A lei non risulta che bene. Quando gli viene detto che bisogna lavorare ad agosto, per esempio, anzi, la prima cosa che chiedono è se possono andare in vacanza ad agosto. Ma guardi, io sto telefonando da Ravello, che sì. è un posto delizioso della costiera amalfitana. Sì. Qui gran parte di quelli che lavorano nel festival, come Facchini, guardi, sono sì. studenti universitari o neolaureati. Io per esperienza personale conosco ragazzi giovani, molto giovani, che la prima cosa che chiedono è quando possono andare in ferie e se gli dicono non puoi andare in ferie magari rinunciano pure al lavoro e magari i genitori gli danno pure ragione. Deve cambiare amici. Ma può darsi. Guardi, in questo caso si tratta addirittura di un parente, i parenti non si possono cambiare. No, non si possono cambiare. Mi è capitato quest'estate che mi raccontassero, non voglio entrare nel particolare, assunta in una multinazionale del cibo, diciamola così, voleva andare in vacanza e ha chiesto di poter andare in vacanza pur mettendo in qualche modo a rischio anche lavoro, perché era stata appena assunta. Bisogna andare a vedere bene, perché se si tratta di poi di sfruttare le persone non dandogli le ferie che sono dovute, ma altro sì. Bisogna vedere caso per caso, e comunque un caso non è un campione rappresentativo. Comunque, questo lo capisce benissimo. Comunque lei non è tra quelli che dicono il Sud non va perché è colpa di qualcun altro. Lei dice abbiamo noi meridionali delle responsabilità. Assolutamente, per non dobbiamo aspettarci nulla da nessuno. Ma cosa dovrebbe fare? Cioè, qual è la soluzione, la risposta di De Masi a tutto questo, per esempio? Cioè, la risposta di De Masi a tutto questo è una a breve termine e una a lungo termine. A brevissimo termine, la lotta alla criminalità organizzata, perché è un disincentivo per chiunque voglia investire nel Sud, a cominciare dagli stessi meridionali. E poi una lotta a lungo termine, che significa operare nella scuola, cominciando dalle università, per mobilitare una massa enorme di persone e cambiare proprio il registro, perché con questo registro il Sud porterà a fondo anche il Nord. È vero che l'Italia, se non avesse, diciamo, a far media anche le regioni del Sud, avrebbe un PIL, un'occupazione, una situazione economica alla pari con tutti gli altri paesi europei, forse addirittura... Forse superiore. Addirittura... Tenga conto che noi nel Sud siamo abituati a dire che la colpa è sempre dei piemontesi che fecero una cattiva unificazione dell'Italia. Ora è il caso di cominciare a capire che non dobbiamo aspettarci nulla da nessuno e pretendere però le cose che possiamo pretendere, come quella per esempio di una seria battaglia dello Stato contro la criminalità organizzata, per la quale il singolo meridionale non ci può fare nulla, naturalmente. È troppo debole. A me ha colpito anche un altro dato del rapporto di ieri sul Sud, che non me l'aspettavo. Forse lei, da grande studioso qual è, avrà una spiegazione sicuramente, ma non è difficile forse arrivarci. Il calo demografico, cioè una delle grandi cose del Sud in genere, che facevano figli e quindi forza lavoro, come diceva lei, tanti giovani per il futuro. Guardi, invece... al momento dell'Unità d'Italia, Roma, Napoli aveva la popolazione di Torino e di Milano messe insieme, anzi superava leggermente la somma di queste due popolazioni. Adesso lei non riesce neppure a capire Napoli quanti abitanti ha. Non funziona neppure l'ufficio statistica del comune. Se guarda il sito del comune, nella prima pagina ci sono tre dati. Si dice che la popolazione è di 980.000, poi più giù si dice che è 990.000, poi si dice che è 1.040.000. Quindi non sappiamo neppure quanti sono i napoletani. Di sicuro però le previsioni sono che noi entro il 2050 perderemo altri 4 milioni di persone, tutti giovani. Quindi è un darwinismo alla rovescia, è una moneta cattiva che scaccia quella buona, non so come dire, per cui restano poi le persone meno intraprendenti. Ed è un guaio, perché le persone meno intraprendenti possono essere utilissime se organizzate in un contesto molto migliore. Senta, ma Roma secondo lei fa parte del Sud ormai? Ah, per certi versi proprio sì, quello che succede a Fiumicino. Vede, l'ISIS per combattere, per mettere in ginocchio i paesi come la Tunisia, che cosa fanno? Cercano di mandar via i turisti facendo attentati sulle spiagge. Ecco, da noi non c'è bisogno che venga l'ISIS, ce li facciamo da noi gli attentati contro il turismo, è una follia. Grazie, buona serata Domenico De Masi, grazie per essere stato con noi. Scusate la mia veemenza, però no, abbiamo qualche motivo. Certo, anzi l'abbiamo chiamata proprio per questo, grazie. Grazie a voi. A presto, presto. 800 24 00 24, abbiamo Enrico che chiama da Roma, buonasera. Enrico? Buonasera, sì. Enrico, sì. Buonasera. Prego. Io volevo segnalare una cosa che con i miei colleghi avevamo visto, e che ci è sembrato molto strano che non fosse ripresa dalle testate giornalistiche principali, ossia che è stato ricostruito un pezzo, una sorta di bretella sulla 19 Palermo-Catania per bypassare il ponte caduto, sì. Che è stato costruito con l'intervento del Movimento 5 Stelle, che ha utilizzato 300.000 euro di rimborsi elettorali per costruire mi sembra 35 giorni, una cosa del genere, sì. Quello che in tantissimi altri casi è... Sbaglio o si tratta di quei lavori che sono iniziati spontaneamente da parte di singoli cittadini che a fronte appunto dell'interruzione della Palermo-Catania, se ricordo bene, hanno individuato questa bretella alternativa e hanno cominciato proprio a liberare la strada da soli coi trattori? È iniziata così la storia, no? Guardi, non glielo so dire, noi siamo rimasti colpiti solamente dal fatto che questa notizia l'avevamo letta su Facebook e su delle testate locali. Sì, sì, sì, l'ho letto anche oggi che è stata finita con, anche grazie ai soldi raccolti al Movimento 5 Stelle della Sicilia. Grazie Enrico, buona serata. Grazie, 800 24 00 24. Questa sera vi vogliamo coinvolgere anche su questo. C'è una notizia che sta facendo impazza, come si dice, sul web, ed è questa. Insomma, 1000 musicisti a Cesena radunati per eseguire una canzone dei Foo Fighters per chiedere a questa band americana di venirsi a esibire proprio a Cesena. Un raduno pazzesco, mai visto, un video super cliccato, credo oltre 4 milioni di visualizzazioni in un giorno, è accaduto ieri. Tra poco sentiremo, più avanti sentiremo anche gli organizzatori di questa cosa pazzesca, e allora vi chiediamo, cari ascoltatori, voi che cosa, la follia che avete fatto voi per amore o per convincere qualcuno a fare qualcosa, che ne so, avete comprato 1000 rose per convincere la vostra fidanzata a sposarvi, oppure quella volta che vi siete arrampicati sull'albero perché volevano buttare giù il parco, no? Questo è successo per esempio a Istanbul qualche tempo fa, oppure, che ne so, avete venduto la motoretta per comprarvi il biglietto per andare a vedere la finale di Champions della vostra squadra del cuore. 800 24 00 24, tra poco. Diceva Einstein, è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Indovina chi viene a cena, si occupa di identità e preconcetti, in cucina come negli incontri che facciamo. Ogni settimana ospitiamo un italiano con radici altrove che racconterà la sua storia anche attraverso un piatto. Fra couscous e risotto intorno ai fornelli si parlerà di contaminazioni e false credenze verso il cibo e non solo. You've got to... Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 23 con Indovina chi viene a cena, e quest'estate anche la domenica alle 13.30. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buonasera ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, 800 24 00 24. E allora, insomma, questa sera, oltre ai soliti interventi, vi chiediamo e mettiamo in palio anche questa sera la mini guida di Expo con gli itinerari per quanto riguarda Milano nel periodo di Expo, edita dal gruppo 24 ore. A chi darà la risposta più così, a giudizio insindacabile della redazione di Si può fare, la risposta più interessante, più divertente. Cosa, la follia che avete fatto per amore o per convincere qualcuno a fare qualcosa. E siamo partiti dalla notizia di questi 1000 musicisti che a Cesena sono radunati per chiedere ai Foo Fighters di venire ad esibirsi proprio a Cesena, e pare che ce l'abbiano fatta perché il leader della band ha detto a presto Cesena. 800 24 00 24, Giovanni dalla provincia di Caserta, buonasera. Salve, buonasera Maurizio, buonasera. Eccoci. Grazie qua per lo spazio che concedete. No, io chiamo da Marcianise, provincia di Caserta. Sì. Dalla terra dei fuochi, praticamente. Mm-hmm. Confermo parola per parola quello che sta appunto scrivendo. Io ieri lo leggevo sui vari social, eccetera, eccetera. Confermo tutto. Qui al sud non c'è nulla, c'è deserto. Noi siamo praticamente abbandonati a noi stessi. Praticamente c'è proprio, come leggevo anche in alcuni, su alcuni quotidiani, c'è proprio la volontà politica, come dicevo pure... De Masi? Confcommercio, sì, no, sì, no, sì. No, quello che avevamo prima non era Confcommercio, era Domenico De Masi, il sociologo. Sì, sì, no, però dicevo, leggevo anche una dichiarazione, sì, proprio di, come si chiama, quello del il presidente del Se non lo sa lei come si chiama quello che deve dire, chi è? Comunque niente, vabbè. Siamo proprio, c'è una mancanza di volontà politica qui, di non risolvere le problematiche. Proprio, cioè, spero, lei dice, i problemi non si vogliono risolvere per lasciarli lì a crescere e farci lucrarci sopra il consenso vero, elettorale. Guardi, noi siamo un po' fortunati perché io sono impiegato, in questo momento sono entrato da lavoro, fino, sì, alle 6. Però che ne pensa, guardi, di quello che ha detto, scusi, che ne pensa di quello che ha detto poco fa proprio De Masi, che ha detto il Sud non deve più chiedere a nessuno di venire a risolvere i problemi, ma deve rimboccarsi le maniche e risolverseli. Ma sì, ma guardi, ma se avessimo dei problemi, noi dobbiamo accendere il cielo a questi ragazzi del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo un grande Luigi Di Maio, che grazie a lui, diciamo, molto, io ieri ascoltavo pure il vostro programma perché parlava un signore che forse si era drogato prima di intervenire da voi, che diceva che Di Battista, diciamo, era populista, eccetera, eccetera. Ma noi, grazie a questi signori che magari stiamo avendo un po' di voce noi del Sud, grazie a un Luigi Di Maio, grazie a questi ragazzi che stanno lì, speriamo che veramente questo programma, questo progetto magari va bene, questa è la sua, la sua aspettativa, Giovanni. Grazie. Non abbiamo più niente da perdere. Grazie, diciamo. Grazie. Buona serata. Stefano da Siracusa. Stefano. Buonasera. Buonasera. Senta, come ho detto la sua collaboratrice, io sono stato a Venezia un mese fa. Sì. Ho preso un pezzo di Murano di 25 euro. Ma lei sta parlando col viva voce, cosa fa? La sento male? Sì, mi sente così? Se toglie viva voce è meglio, grazie. Prego. Eccolo qua. Pronto? Sì, adesso va meglio. È stato a Venezia, ha comprato un pezzo di vetro di Murano. Un pezzo di Murano dei 25 euro. E praticamente mi hanno fatto lo scontrino da un centesimo e alle 2 del pomeriggio era il secondo scontrino che faceva quella cassa. Allora, a parte i compromessi che ho fatto la finanza 2 anni fa a Cortina, che sicuramente non è né in Sicilia né in Campania, sì, dove il 30% il 40% non veniva fatturato, sì. L'evasione fiscale è un problema di tutta l'Italia e ho detto alla sua collaboratrice è molto semplice risolverlo. Basta fare dei carnet da 6 da 25 come in Francia e non fare pagare nemmeno un centesimo per un assegno. E basta fare pagare il bancomat la commissione dello 0,3 invece che dello 3%. Ci sarebbero meno rapine, ha ragione. Meno no, ha ragione, questo è una cosa che io condivido. Stefano, però lei chiama da Siracusa, ma lei di dov'è? Esatto. Io sono di Siracusa. Di Siracusa. No, perché ha citato la questione di Venezia, è stato in vacanza a Venezia. Quanto tempo fa è stato in vacanza? Mese di giugno. Un mese fa. E invece lì a Siracusa quanta scontrini se uno va al bar? Ma di solito al turista se lo fanno perché non lo conoscono. Se proprio lo vuole sapere non lo fanno a quello con cui ti dai del tu. Spiego? Sì. Al turista lo fanno perché non si sa mai, potrebbe essere qualcuno che potrebbe essere invece alle abitue non lo fanno. Benissimo. Quello che tu conosci, cioè, benissimo. Da scuola, perché il tuo vicino di casa, perché lo conosci da sempre, magari può anche capitare che non te lo fa. Va bene, poi grazie. Buona serata. Gaetano da Napoli. Gaetano. Buonasera, signor Alessio. Chiedo scusa per la ricezione del telefono perché sono con il cellulare. No, si sente bene però, mi pare. Sì, sì. Senta, io le volevo dire, io abito a Napoli, sì. E secondo me sia Napoli, Roma, tutto ciò che è a sud di Roma, sì, è la quintessenza di quello che il turismo non dovrebbe essere. Cioè? Adesso le spiego. Il turismo, in un certo qual senso, è come una stazione radio. Tutti vogliono essere lo speaker, tutti. E qui si c'entra il turismo? Adesso le spiego. Tutti vogliono essere sul tutti vogliono essere visti, però nessuno vuole fare il lavoro che c'è dietro. Adesso mi spiego. Si spieghi un attimo, perché sennò così siamo un po' appesi. Sì. Per esempio, ci sono le istituzioni. No, ma sì. Che avrebbero dovuto. Ma parliamo del turismo. Cosa c'è che non va nel turismo? Che qui è tutto, non ci sono regole, non ci sono, le persone sono in un certo qual senso non qualificate, tutti vogliono fare le parole, per esempio che porta il Comune di Napoli, sì. Il Comune di Napoli, i soldi che investe a fare spettacoli che non servono a niente, spettacoli che non servono a niente, che vuol dire? Uno spettacolo può essere bello o brutto, l'obiettivo è fare richiamare il turismo e si giudica poi su quello, cioè richiamare la gente. Ma se lei lo richiama, e poi trova le strade sporche, ma non trova i servizi, è inutile che lo fa. Il compito di un'istituzione, secondo me, può darti pure che mi sbaglio. Vabbè, attualmente a Napoli le strade sono sporche e non ci sono servizi. No, lei ha detto è inutile fare spettacoli se poi arrivi le strade sono sporche. Io le ho chiesto, attualmente a Napoli le strade sono sporche? No, ma non sono all'altezza di quello che dovrebbero essere per una città turistica. Va bene, grazie, il suo punto di vista è chiaro, ci vogliono tutti gli annessi e connessi, non bastano, diciamo così, le scintille, così le fiammelle. Cosa mi state dicendo? Sì, andiamo con Sergio da Roma. Sergio, buonasera. E buonasera Maurizio. Ma io ho un punto di vista particolare, una prospettiva particolare, perché mi occupo di pubblica amministrazione da tanti anni, mi rendo conto che il problema è fondamentalmente nella qualità delle persone. Non voglio nemmeno mettere in mezzo il discorso dell'onestà o della disonestà, mm-hmm, che è di per sé un grande problema, ma io dico proprio le competenze delle persone che si occupano di Sud, in particolare a livello centrale, cioè da Roma. Mi dispiace che lei non li chiami De Masi, no? Che De Masi è stato un grande sociologo, ma insomma una persona che ha 50 anni che parla di Sud, si occupa di Sud. Qui abbiamo bisogno di idee nuove, di persone nuove, perché evidentemente quelle che ci sono state finora non hanno fatto un grande lavoro. Guardi, le do ragione sul fatto che abbiamo bisogno di persone e di persone nuove, sicuramente. Abbiamo bisogno di idee, l'ha detto lei. Ecco, mi sembra che le idee si giudicano per quelle che sono, non per chi, per quanti anni ha chi le propone, capito? No, per... assolutamente. Però chi mi ridice ancora dopo 50 anni lotta alla legalità, beh, non mi dice una grande novità. No, lo so, lo so. Però se l'illegalità è sempre lì, se l'illegalità è sempre lì, è chiaro che bisogna continuare a dirlo, no? Oppure, siccome è sempre lì, ci siamo stufati di dirlo, per essere originali non lo diciamo più e chi se ne frega, e allora lasciamola lì la criminalità. Non mi sembra una conclusione. Provare a sentire voci nuove, ecco, idee nuove, persone nuove, migliori di quelle che ci sono. Va bene, Sergio, grazie. Lei non ha apprezzato perché non era una persona nuova, però ripeto, sulle persone nuove sono d'accordo anch'io. Tra l'altro, sforzo che facciamo anche col programma di dare le voci, soprattutto il programma quando va in onda nel weekend, il programma delle buone notizie, il sabato e la domenica mattina dalle 7.30 alle 10, perché questo si può fare, diciamo, durante l'anno. Adesso siamo nel si può fare estate. È arrivato il momento di conoscere il caso che abbiamo accennato prima con De Masi. Andiamo a Napoli. Allora, la storia l'abbiamo accennata prima intervistando De Masi, è uno di quei casi in cui si dice che il lavoro c'è ma nessuno se lo vuole venire a prendere. Buonasera Giovanni De Vivo, che è il proprietario del bar-ristorante Chicco d'Oro di Napoli. Buonasera. Sì, salve, buonasera. Giovanissimo, perché lei quanti anni ha? 20? 24. 24 anni. Siamo io e mia sorella, diciamo. Sì. Possiamo anche darci del tu, forse. Tranquillamente. Diamoci del tu. Allora, Giovanni, adesso dobbiamo fare la pausa per il traffico. Poi parliamo con te di questo caso che hai aperto, segnalando ai giornali il fatto. Ogni tanto queste notizie ritornano, ricorrono. Bisogna sempre poi verificare se è vero, in effetti, eccetera, eccetera, che ci sono dei posti di lavoro che voi offrite e, insomma, giovani o meno giovani che rifiutano, e questa sarebbe una cosa su cui interrogarsi. Adesso interroghiamo te dopo il traffico. Tra un attimo. Si può fare. L'attualità anche d'estate. E tutto il mondo è paese, siamo milioni, milioni di case e colori, e chissà, chissà che favole strane, strane le religioni. E allora, di nuovo in compagnia di Giovanni De Vivo, proprietario del Chicco d'Oro di Napoli, un ragazzo di 24 anni che gestisce questa attività commerciale abbastanza grande. Siete in centro a Napoli, no? Sì, a Piazza Municipio. Quante persone attualmente lavorano nel tuo bar? Circa 15. Già 15 persone. E voi avete bisogno di più persone per l'estate, immagino. Tranquillamente, ma no, non solo per come è stato frainteso, diciamo, sì, per il periodo estivo, ma per tutto l'anno, cioè che si affianchino a noi e diventino parte integrante della squadra, diciamo. E questo di quante persone più o meno hai bisogno? 10 in linea di massima, perché quando si arriva a circa 20-21 persone significa che all'interno del bar devi considerare che 3 persone al giorno fanno festa, perché devi garantire un giorno di festa a settimana. Perché voi sareste aperti 7/7? Siamo aperti 7/7, 20 ore al giorno, 18 ore al giorno. Diciamo. Voi cosa fate? Colazioni, pranzi, noi aperitivi? Facciamo dalla colazione, la pasticceria, la tavola calda, la rosticceria, gelati, cucina, facciamo un po' di tutto. Si può venire anche alle 11 di sera ancora? Siete aperti o è già chiuso? Sì, fino a luna, fino a mezzanotte. Luna, quindi diciamo, fate praticamente durante la settimana tutto. E quindi hai bisogno di 10 persone e hai cominciato a fare dei colloqui? Sì. E come sono andati questi colloqui? Praticamente cose allucinanti, diciamo, tra virgolette. Gente che dopo che andiamo sul sito su subito cerchiamo, mettiamo l'annuncio, diciamo, vengono inviati circa 200 curriculum, viene fatta una prima cernita, chi invia il curriculum, chi non lo invia, per non portare alla lunga vengono chiamate circa 40-50 persone dopo un giorno, su 40-50 persone una decina non rispondono, 10 rispondono sto dormendo, non mi disturbate. Sto a mare, come sto dormendo, non mi disturbate. Cioè, tu rispondi al curriculum che loro ti hanno inviato e ti l'ufficio chiama? Sì. L'ufficio chiama e dice: salve, chiamo in merito alla risposta all'annuncio del Cinco d'Oro. Che lei ha inviato il curriculum ieri. E dicono: tu sto dormendo, non ci credo. Le possiamo fissare un colloquio per domani? Sì. Scusi, mi potrebbe richiamare domani? Questa è una delle risposte che sentiamo. Perché adesso c'ho da fare, però non si dice perché così, no? Se uno cerca un lavoro, mi chiama più tardi. Mi può dare il suo numero, cioè uno se risponde a una chiamata per un lavoro fa un salto di gioia, dice sì cavolo arrivo subito, questo dovrebbe essere, no? Questa dovrebbe essere la risposta, invece è tutto il contrario. Questa è la cosa più scioccata. Poi però arrivano poi ci sono quelli che rispondono, fissano il colloquio, tutto a posto, grazie, ci vediamo domani alle 9, su circa 20 persone la media, e si può chiedere tranquillamente ai ragazzi, se ne presentano circa 8-9, meno della metà. Cioè tu al termine di queste selezioni riesci a... Tutto dimostrabile, l'ho fatto vedere Paolo Barbato del mattino, voglio dire, l'ha analizzato lui prima a me perché... Ma noi ti abbiamo chiamato perché la notizia è data al mattino, un giornale serio, però sai, bisogna sempre verificare perché spesso, a volte capita che queste notizie sono un po' gonfiate. La prima domanda che però, siamo posti aspetta un secondo, Giovanni, voglio chiederti questo, per riepilogare, quindi alla fine tu hai avuto 20 persone che erano in qualche modo idonee e le hai convocate per il giorno dopo. Più di metà non sono presentate? Sono venuti circa 7-8, ma non ero l'ultima volta, ma in media è sempre questa la media. Ne vengono 7-8, gli viene fatto il colloquio, tra virgolette, dove nessun colloquio aziendale particolare, le domande che esperienze lavorative ha avuto, dove ha lavorato, quanto tempo ha lavorato per ogni attività. Questo è un normale colloquio di lavoro, ma queste 7-8 persone che hai convocato, quindi alla fine che si sono presentate, sono entrate a lavorare da te, oppure poi è successo qualcosa? Su 8 persone, 6 di queste, 2 avevano 1,58 anni, 1,60 anni, nulla contro gente più adulta, per l'amor di Dio. Però avendo una squadra diciamo omogenea su tutta un'età più giovane tra i 20 però questo scusami non è un problema di chi è selezionato, è un problema vostro che non volete persone di una certa età, quindi questi diciamo scartiamoli, non sono poveracci, no, ma nulla contro, ripeto, non è che chi ha 50 anni non deve lavorare, se a te non servono però non dovevi selezionarli, scusami, allora ti giro la questione, ma non figuravano tutti quanti, alcuni che sono stati chiamati erano addirittura senza data. Lo voglio immaginare, infatti quando ci siamo trovati abbiamo fatto il colloquio non ero 5-6 di quelli là, mi è stato detto su 4 di loro mi hanno detto no, uno mi ha detto per chiarezza c'ho la settimana prenotata, un altro il sabato e la domenica non posso lavorare, un altro alle 5:30 è troppo presto, non mi posso alzare, all'1 di notte non posso finire. Tutte domande, cioè 8-9 ore lavorative che si fanno in tutti i bar d'Italia, perché il bar è sacrificato, non per dirlo. È un lavoro faticoso il vostro, questo è un lavoro dirlo. Abbastanza faticoso. Quante ore? Il titolare non te lo chiedo perché chiaramente è il titolare. No, ma me lo chiedere proprio. Un barista, quante ore? Un tuo barista? 8-9 ore lavorative, linea di massima. E quant'è lo stipendio per queste 8-9 ore lavorative? Dagli 800 euro a salire, c'è chi parte da 8, chi ha 9, questi sono in linea di massima. Lo stipendio, diciamo, che date voi o che è lo stipendio giusto, diciamo, da contratto? Che diamo noi, ma ci sta chi dà di più, chi dà la maggior parte dà di meno. Per ma 800 euro per capire... Che possono dare di più. 800 euro per capire... Che... Scusa Giovanni, per capire 800 euro di cui tu parli sono lordo o il netto? No, netto, quello che hanno bonifico che gli arriva in busta paga, con tutti i contributi pagati. Il lordo è di più, è normale. Quello che percepiscono da me 800 euro... più l'eventuale Renzi o gli eventuali 800 euro è la base, però sì. Chi vi dà sicuramente il macchinista, lo chef prendono di più, e poi è fuori discussione che gli viene affiancato, chi ha assegni familiari vengono affiancati gli assegni familiari, chi ha Renzi viene affiancato a Renzi. Questa è la 800 familiari, se tu cerchi dei ragazzi, se tu cerchi dei ragazzi, gli assegni familiari non ce l'avranno perché non avranno familiari a casa. Non è vero, abbiamo due ragazzi che uno ha 26 anni, un altro che hanno già famiglia. Hanno già un bambino e percepiscono circa 140 euro di assegno familiare. Ok, in modo che ognuno possa farsi un'idea: 8-9 ore di lavoro. Aspetta. Il bodyguard che collabora da anni con noi, sì, che ha 50 anni, quasi una persona di famiglia, che percepisce l'assegno familiare, tutto. Vabbè, 8-9 ore di lavoro per 800-900 euro di base di stipendio, per quanti giorni a settimana? 5 o 6? 6 giorni. 6 giorni. Un giorno di festa a rotazione, tanto può essere lunedì, il martedì, il sabato e la domenica. Quindi 6 per 8, 48, sono quasi 50 ore a settimana, sono tante. Sì. No, abbastanza. È faticoso. Il bar, ripeto, è sacrificato, ripeto, non è cifre esagerate, ma se leggi le risposte che ho letto su fanpage da Manchester. No, sì. Io nel bar, io sono uscito ora dall'università, 3 anni di università, devo prendere perlomeno 1.400-1.500 euro sabato e domenica, non voglio lavorare. Per l'amor di Dio, ci sono lavori che prendi 3.000 euro e lavori 3 giorni a settimana, ma ti posso garantire che a Napoli... Per chi ce la fa, beato lui, gli altri si devono arrangiare. Credimi. E arrivano degli stranieri invece al posto degli italiani, capita? Niente, neanche stranieri. Neanche stranieri, niente. Niente, ma niente, il primo proprio problema che ci siamo posti noi è stato, non è che siamo noi, cioè considera che il stipendio spesso ai colloqui, lo sai, non se ne parla mai, e la maggior parte delle volte non sempre si parla di stipendio, sono ragazzi che non lo chiedono come vogliono loro, poi se lo vogliono sapere noi lo diciamo tranquillamente, che è una base, ci sta, per esempio facciamo l'esempio con un ragazzo giovane, uno degli ultimi collaboratori nostri, che è venuto di 19-20 anni, nessuna esperienza, a qualunque ragazzo da chiedere una bomba. C'è un ragazzo a fare di tutto, cioè lì mi è stato molto chiaro, detto, vengo da lontano, ho problemi, ed è tutta volontà, sì, e parte da uno stipendio già più alto. Giovanni, in bocca al lupo per il vostro bar, comunque per la vostra attività, tanti auguri, a presto, buona estate, grazie per essere stato con noi. Ciao, questa era la notizia, insomma, avete sentito, abbiamo dettagliato tutto, le ore di lavoro, lo stipendio, quante persone si sono presentate, come hanno risposto ai colloqui, bisogna chiedere naturalmente al titolare del bar di Napoli, potrebbe anche dire delle balle, però questo è quello che ci ha raccontato. 800 24 00 24, ci risentiamo dopo il giornale radio. Nasce tutto il cibo del mondo. Da dove arriva il pomodoro? Chi sostiene la terra? Le domande dei bambini, le risposte degli scienziati. Da cibo a evoluzione, da spreco a sostenibilità. Le grandi parole di Expo raccontate ai più piccoli. Telmo, sei sicuro? Riusciremo a spiegare anche parole tipo biodiversità? Certo Federico, è la diversità degli animali e delle piante. E ci sono un sacco di sorprese. Tu per esempio sapevi di essere parente della banana? No, però vabbè, se lo dice un filosofo della scienza mi sa che ci devo credere. Vi aspettiamo ogni domenica alle 9 con interviste, esperimenti, storie, filastrocche e tante curiosità. Con Telmo Pievani e Federico Taddia, Terra in Vista, l'Expo come non l'avete mai visto. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Buonasera di nuovo da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, 18, 20 e 30, insieme ai vostri interventi, 800 24 0024, va, già che ci siamo, anche la pagina Facebook, Si può fare, /Radio 24, l'account di Twitter è @ Si può fare 24. È pace fatta a Roma tra il governo e il sindaco Marino, a certificarlo l'intervento ieri sera di Maria Elena Boschi. I romani hanno scelto Marino e Marino deve governare, deve essere Marino a governare. Il PD lo sostiene, il governo farà la sua parte perché abbiamo la sfida del Giubileo, delle Olimpiadi nel 2024, quindi sicuramente noi faremo la nostra parte. Lui sicuramente, appunto, in una situazione di di criminalità, di malaffare ormai in qualche modo incrostatosi nel tempo, è riuscito a rimanerne fuori, quindi a dimostrare che è una persona onesta. Io non ho dubbi su questo, Marino è una persona pulita. L'importante è che sia pulita anche la città, cioè deve governare. E Renzi oggi ha messo il suo marchio, il suo personale bollino, anche sul famoso voto che ha salvato il senatore Nuovo Centrodestra Azzollini dall'arresto richiesto dalla magistratura per una vicenda di bancarotta fraudolenta. Ha detto con parole abbastanza, cioè non c'è molto margine di dubbio su quello che ha detto: non siamo i passacarte della procura, è una svolta totalmente antigiustizialista del Partito Democratico che potrà far storcere il naso sicuramente a qualcuno. Sentiamo le parole usate dal Premier su questo. Se, vedendo le carte, perché noi non siamo dei passacarte della Procura di Trani, il Parlamento della Repubblica non è un passacarte della Procura di Trani. Se i senatori hanno ritenuto, e bontà loro, io non ho letto le carte e non sono in grado di dirlo, di non aderire alla richiesta in presenza di una fumus persecutionis che alcuni senatori, io ho letto quello che ha scritto Ichino, per esempio, che è stato molto puntuale, hanno ritenuto sussistere, evidentemente si assumono le loro responsabilità. Così invece sempre Renzi a proposito della RAI, la riforma della RAI. Martedì prossimo il Consiglio di Amministrazione sarà rinnovato, però con la vecchia legge, in attesa della nuova riforma. Mi pare che sia stato un segnale di natura politica, come voi avete detto, assolutamente sì. È evidente che una parte del PD ha voluto approfittare di molte assenze, come erano quelle in quella fase, per dare un messaggio. Questo a proposito del voto, no? Sapete, su cui il governo è andato sotto proprio per quanto riguarda la RAI. A proposito di RAI, di televisione, la versione del talk show serale di Vittorio Sgarbi, che sbrocca completamente in onda estate con la conduttrice Francesca Barra, la manda anche praticamente a quel paese o quasi. Insomma, forse lo chiamano anche per questo Sgarbi, perché fa casino, però qua cioè, è un po' esagerato, sentiamo. Due scorregge fritte, da una parte Verdini, dall'altra parte Alfano, che lo stringono da... È una cosa asfissiante, asfissiante, totalmente asfissiante. Sì. Alfano è una puzza umana. Torniamo un attimo seri, no, anche per i telespettatori, che sennò se si vuole ridere si ride, sennò torniamo un attimo seri. I telespettatori sanno bene, non è che ridono, no, ma perché vuol dire ridere? È una considerazione precisa. Renzi è un uomo di sinistra che fa fra due uomini di destra, quindi non c'è niente da ridere, signorina. No, c'è non c'è niente da ridere, se, no, aspetta no, di certo fare la predica, non c'è da ridere. Rida con altri. No, certo. Ho detto non c'è che sono due scorregge fritte e sono due scorregge fritte. Sono due scorregge fritte. No, non io, può offendere, io sinceramente, è sempre un misto. Si faccia i cazzi suoi, si faccia i cazzi suoi. No, se lei è nel programma che conduco anche io, realtà, non mi piace che si parli in questi precisa. Termini. Questa è Learn to Fly dei Foo Fighters in una versione un po' particolare. 4 milioni di voi l'hanno già vista perché hanno cliccato, forse adesso saranno ancora di più, sul video che sta impazzando sul web. E questa è l'esibizione di 1000 musicisti, tra batteristi, chitarristi, vocalisti, che si sono esibiti appunto ieri a Cesena. Per fare che cosa? Per chiedere ai Foo Fighters, un modo un po' particolare, di venire a esibirsi a Cesena. L'autore di questa simpatica bravata è Fabio Zaffagnini. Buonasera. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Ideatore del concerto, come lo avete ribattezzato? I 1000 Rockers per i Foo Fighters? Esatto, insomma l'abbiamo chiamata Rock il 1000, che ha un'accezione in inglese e anche in italiano, fatto Rock in 1000 effettivamente. Tu alla fine di questa esecuzione, che è da pelle d'oca, perché io invito chi non l'ha vista a vedere il video perché è straordinario, è una cosa da record, tra credo mai... tanti musicisti così insieme hanno cantato la stessa canzone, forse nel mondo. Sì, a quanto ci risulta effettivamente nessuno ha mai messo insieme così tanti musicisti, cioè una rock band di quelle dimensioni. Ma oltre a questo, in realtà la cosa che stupisce me in primis, sì, ma tutto il team, tutti quelli che erano presenti, è la qualità di quello che è saltato fuori, perché tutti ci aspettavamo prima di iniziare un gran casino, e invece loro hanno fatto musica, e musica anche di alto livello. È stato davvero impressionante. Sì, perché come si può sentire, vanno tutti a tempo e sembra veramente un coro unico, ma pensate che questo che sentiamo, sono 1000 persone che stanno suonando insieme la stessa canzone. È una follia. Come ti è venuta in mente? Quando questa follia? Allora, mi è venuta in mente a maggio dell'anno scorso. In macchina ho pensato che mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere i Foo Fighters nella mia città, che è Cesena, per chiedere una cosa del genere, che apparentemente è impossibile. Ci voleva qualcosa di grosso. Ci voleva qualcosa di assolutamente straordinario, che avrebbe dovuto far parlare di sé tutto il mondo. E quindi ho pensato, proviamo a fare un grande tributo per farlo. E quindi dopo abbiamo messo in piedi il team, che è comunque composto da persone, da grandi professionisti, tutti appassionati di musica rock, di Foo Fighters. Abbiamo messo in piedi il progetto, ci abbiamo lavorato un anno, a dir la verità. I sacrifici sono stati tanti, però adesso siamo stati più che appagati, insomma. Sì, anche perché c'è già una risposta, no? Il leader della band, che cosa ha detto? Prima ha detto a presto Cesena, però poi ha risposto in italiano, non so, l'avrai già sentito, ma è di poco fa. Sì, pochi minuti fa ha registrato un video in cui in italiano... Ce l'abbiamo Fabio, sentiamolo. Ciao, mi dispiace, non parlo italiano, solo un po'. Questo video, ma che bello, che bellissimo, grazie mille. Stiamo arrivando, prometto. Ci vediamo presto. No, grazie mille. Ti amo. Ciao. Fantastico, Fabio, è veramente bello. Poi... è una cosa che mi fa tremare le gambe, anche perché non mi sono ancora ripreso dalla... Da questa bello che lo abbia detto in italiano, bello, anche perché tu alla fine di questa esibizione che stiamo ancora sentendo hai trovato, diciamo, la lucidità per salire su un palco improvvisato e rivolgere l'appello finale proprio ai Foo Fighters in inglese, e gli hai chiesto appunto di venire a suonare da noi, con noi, per noi. Adesso vediamo che cosa succederà, perché sinceramente credere di avere un successo planetario a questo livello davvero non ce lo potevamo neanche lontanamente immaginare. Quanti milioni immaginare. Di visualizzazioni ha fatto adesso? Adesso credo che abbiamo superato i 5 milioni di visualizzazioni. Pazzesco. Sono numeri che uno fa anche fatica a immaginare. A capire, in un giorno, perché la cosa è successa ieri, no? Sì, è uscito ieri a mezzogiorno, più o meno. E a oggi sì, più o meno le cifre sono davvero quelle. Ma tu fai sempre così, una volta che desideri una cosa poi metti in piedi dei circhi di questo genere? Ma io sono tipo abbastanza testardo, generalmente se mi vengono delle idee sto male fino a che non quantomeno ci ho provato a portarle a termine. Questa volta devo dire che è andato tutto liscio, avevo con me dei ragazzi, delle ragazze meravigliose e con un profilo professionale altissimo, e per tutto un anno abbiamo fatto degli enormi sacrifici a combattere contro lo scetticismo, contro un budget che inizialmente era pari a zero, perché noi fondamentalmente per mettere in piedi tutto questo abbiamo fatto una campagna di crowdfunding molto lunga, molto difficile, abbiamo raccolto più di 44.000 euro. 44.000 euro hai raccolto, però. Sì, ed è una cifra che in Italia è difficile da raggiungere, soprattutto per un non evento, perché se ci pensiamo bene, noi chiedevamo dei soldi a delle persone senza promettergli in cambio un concerto dei Foo Fighters, insomma, sì. Quello che davamo in cambio erano una piadina romagnola, una birra, una maglietta, quindi insomma... Però l'entusiasmo era travolgente, sarà per il fatto di fare una cosa unica, sarà per il fatto che suonare è sempre qualcosa che mette energia, ma appunto basta vederlo il video per rendersi conto di questo. Tu appunto sei uno testardo, hai detto, l'ultima volta che ci eravamo sentiti, quando io ho sentito che l'autore di questa impresa era Fabio Zaffagnini, perché noi ci eravamo già sentiti forse un paio d'anni fa a Si può fare, perché tu stavi portando avanti un'altra impresa. Stai cercando di vendere a Google un'app, Train Me Up, per mappare i sentieri strani, di montagna. Esiste ancora quella cosa lì? Sì, beh, adesso questo qui è diventato praticamente il mio lavoro principale. Ho sviluppato questi zaini che fanno foto panoramiche per fare degli street view di luoghi raggiungibili solamente a piedi, e su un sito che si chiama Trail Me Up abbiamo pubblicato insomma tanti sentieri e tantissimi ne pubblicheremo. Vabbè, insomma, non resta che sapere quando ci sarà il concerto dei Foo Fighters a Cesena. A questo punto, se non vogliono perdere la faccia, diciamo che prima o poi devono metterlo in calendario, no? Oramai l'ha promesso, Promesso. Grazie. Speriamo. Fabio Zaffagnini, il capitano di questa banda di 1000 rockers che si sono esibiti a Cesena. Ciao, grazie. Ok, ciao, grazie. .800240024. Noi vi chiediamo, cari ascoltatori, che cosa avete fatto voi, la vostra follia, per amore o per convincere qualcuno a fare qualcosa. Chiamateci questa sera. Come sempre mettiamo in palio la mini guida e gli itinerari di Milano per quanto riguarda Expo, edita da 24 ore cultura. E non ce l'ho, non posso sentirlo l'ascoltatore, non facciamo in tempo? Va bene, allora dopo la pubblicità. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo. Buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800240024. A dire la verità, c'è una sequela di SMS al 349-238-6666 sulla intervista che abbiamo fatto in chiusura della prima ora al titolare del bar di Napoli. Tutti si sono fatti i conti. Vediamo se leggo. Sono 4 euro l'ora, 9 ore di lavoro festivo, 800 euro, ma vergognati solo a fare sentire questo sfruttatore, oppure viene 4 euro, insomma, si sono fatti i conti per vengono fuori 4 euro l'ora, e in effetti, detta così, sono pochi. La maggior parte degli ascoltatori criticano il barista di Napoli, dicono che si tratta di sfruttamento, di schiavismo, e che questa cosa non si può fare. Io credo che il punto sia, se hai un'alternativa nella vita, se quegli 800-900, poi 800 euro erano la base, ha detto, potrebbero essere ancora di più, in alcune mansioni sono di più. Se hai un'alternativa oppure no, evidentemente queste persone hanno delle alternative, altrimenti non saprei come spiegarmela. Andiamo con Cosimo che ci chiama da Milano. Buonasera, Cosimo. Sì, salve, buonasera, mi sente? Forte e chiaro. Sì, senta, io volevo dare un mio piccolo aneddoto per quanto riguarda che cosa avete fatto per amore, o sì, per, ecco, diciamo è un tema un po' personale, comunque in poche parole succede questo. Sì. Cioè, è iniziato tutto in maniera molto semplice. Io dovevo andare da Roma a Caserta a trovare la mia all'epoca fidanzata. Sì. E arrivai in un orario un po' poco raccomandabile per quanto riguarda sia servizi pubblici eccetera, tipo, no? Le 2 di notte? Sì, diciamo più o meno, insomma. E quindi siccome la... Ma perché c'erano i treni in ritardo? Anche in quello... diciamo no, era un treno che partiva molto tardi. E quindi anche se erano 250-280 chilometri, comunque okay, ha fatto tutte le stazioni. E insomma, sei arrivato tardissimo. Tardito, sto parlando degli anni 70, quindi insomma... Qualche anno fa, e quindi arrivato lì non c'erano servizi pubblici, non c'era assolutamente nulla. Sì. Quando invece in un angoletto della stazione vedo un calessino con un signore tipico del sud di quelle parti con un cagnolino vicino, e dico, io mi avvicino a lui e dico: senta, io sono rimasto qui bloccato, non so come fare per arrivare in questa piccola provincia che stava a pochi chilometri. Dice: niente, guardi, se vuole l'accompagno io. Diciamo che era un servizio taxi notturno, non so che cosa stesse facendo lì, insomma. E fatto sta che io salgo su questo calessino, e che succede? Si mette sulla strada provinciale, e siccome era pochissimo illuminata, ecco, la cosa che a me rimasta impressa è che si faceva fare da battistrada a questo piccolo bastardino, cagnolino che aveva, no? Cioè seguiva il cane. Seguiva il cane, che sei, diciamo, il cavallo o il mulo, adesso non mi ricordo che razza fosse. Quindi eravate lei, il cocchiere, il cavallo e il cane, esatto, siete arrivati dalla sua fidanzata. Il cavallo seguiva il cane che faceva da battistrada in questa strada provinciale pochissimo illuminata. Vabbè, un cartone animato questo, sembra. E sì, cosa è successo al suo arrivo dalla tua fidanzata, Cosimo? È successo che lei è rimasta meravigliata, prima per l'orario e poi per il fatto che io fossi arrivato in maniera così romantica con questo. E invece era stato solo la necessità, diciamo. Sì, era stata una necessità. Come sempre, l'uomo pensa a una cosa pragmatica e la donna invece ci vede il romanticismo. Sì, diciamo che potrebbe essere un soggetto per uno di quei film tipo neorealismo degli anni 50, eccetera. Poi, vabbè, quella sera come è finita non glielo chiedo, ma più in generale come è finita? Beh, diciamo che sì, è finita bene, perché diciamo questa sorpresa fatta in questa maniera naturalmente mi ha accreditato moltissimo. Insomma, per il resto di tutti gli anni futuri? Sì, sì. Cioè, esatto. È bastata una volta per conquistare. Sì, diciamo che questa qui ha dato il segno e il segnale di come io fossi poi, diciamo, quale fosse la mia personalità. Ecco, diciamo, è stata una base per capire chi ero io. Insomma. Va bene, ecco. Cosimo, complimenti per questo racconto e soprattutto per l'impresa compiuta tanti anni fa con la tua fidanzata all'epoca. Grazie, buona serata. Grazie a lei, arrivederci. Buonasera. Luca da Brescia. Luca. Buonasera. Buonasera, prego. Buonasera, volevo intervenire, appunto sentivo che anche io prima parlava di questo barista di Napoli che offriva del lavoro. Appunto la mia domanda per questo barista era se lui ce la fa a vivere con 800 euro al mese, se uno deve pagare anche un affitto, deve pagare qualche bolletta, 800 euro al mese vanno via come niente. Cosa ti resta? È una bella domanda. Capisco che ci sono persone che, come diceva lui, non hanno risposto agli annunci, e questa denuncia va anche bene, però insomma offrire un lavoro per 800 euro al mese mi sembra davvero misero. Se avessi offerto 1500 euro probabilmente qualcuno avrebbe anche accettato, o no? Sì, no. È vero che 800, lui ha detto 800-900 euro sono la base, poi in alcuni casi potrebbero essere ancora di più, però certo è una base, è una piccola base. Io credo che al di là di cosa si pensi su De Vivo, sul titolare del bar lì di Napoli, io mi metto nei panni di chi deve fare o non fare un lavoro del genere. Lo fai forse in un periodo della vita, se hai una certa età, se magari sei alle prime esperienze, allora pur di non stare a casa con le mani in mano, secondo me ti porti anche a casa 900 euro al mese. Sì, però parliamo sempre di 50 ore alla settimana, cioè vuol dire vivere all'interno del bar per tutta la settimana. Alla fine del mese hai vissuto solo all'interno del bar e ti porti a casa 800 euro. Dopo, vabbè, qualcuno avrà gli assegni familiari, però si tratta di 20 euro, cos'è? Sì. 20 euro al mese in più. Può anche essere che lavori per un po' nel bar e poi impari come si fa e dopo qualche anno te lo apri un bar da qualche parte. Se magari nel frattempo abiti a casa con i tuoi, riesci a mettere da parte qualcosa. Altrimenti è ovvio che è una cifra bassissima. Grazie Luca, grazie. Buona serata. Buona serata. Giacomo da Bari. Buonasera. Prego. Volevo fare intervento a riguardo del meridione che non va, nel senso che fino a questo momento, da quello che mi è sembrato di capire, che sta passando il messaggio che i meridionalisti sono sfaticati, nullafacenti, ladri, eccetera, eccetera. Tutti aggettivi negativi. No, ma perché? Chi è che, io, che senso, sinceramente, no, su questo non sono molto d'accordo. Ma in che senso, scusi, si sta facendo passare? Noi abbiamo intervistato Domenico De Masi che ha detto varie cose, tra cui anche che il fatto che i meridionali si devono rimboccare le maniche, io sono d'accordo, però non ha detto che sono tutti dei fannulloni. Poi noi abbiamo fatto quell'intervista al titolare del bar perché ogni tanto queste notizie ricorrono. Diciamo, cascava a fagiolo per quanto riguarda il tema di cui stavamo parlando e volevamo capire quali erano le circostanze di questa notizia. Tutto lì, non è che credere che sono tutti fannulloni meridionali, non è questo. Io vedo che in effetti qua, per quanto riguarda, visto che si è parlato del bar, in questo caso di un datore di lavoro, devo dire che dalle mie parti, quando tu nel bar, per esempio, se c'è una posizione aperta viene subito occupata, non ci sono problemi di occupare il personale, vanno avanti in mille e lavorano comunque. No, ma sicuramente, guardi, dipende. Sicuramente, guardi, dipende anche dagli stipendi. Da un altro. No, ma sicuramente, guardi, sarà. Ma no, ma infatti, ma chi fa di tutto? Era solo una storia che abbiamo raccontato, tutto lì. se vuole, credo che quello che ha raccontato, che è stato raccontato a Napoli, può accadere anche altrove, anche al nord, magari con altri parametri. Non è che è una cosa solo del sud. E poi, ovviamente, come dice lei, dipende anche dallo stipendio offerto. Fosse stato uno stipendio più alto, probabilmente avrebbe ricevuto risposte più positive, o no? Ma secondo me 800 euro sono buone, vedi, almeno dalle mie parti qui nella provincia di Bari. Diciamo che queste realtà ci sono in maniera positiva. E devo dire anche per quanto riguarda il servizio bar, nel senso che le faccio un esempio, un aneddoto molto leggero. A Milano quando chiedi un caffè ti danno il caffè, poi in secondo momento devi chiedere l'acqua, ti danno l'acqua del rubinetto. Qui invece da noi chiedi il caffè, ti dicono l'acqua gassata o liscia, te la danno gratis ovviamente, da depuratore, e fresca in estate. Ciò che non vedo che succede a Milano. Cioè, sono cose positive che magari non passano, e passano solo quelle negative. No, vabbè, ma dà fastidio. Se, no, non è che se adesso ci mettiamo a fare l'elenco delle cose positive che ci sono al sud, non la smettiamo più. Non era questo. Grazie comunque, buona serata. Grazie. Buonasera. Abbiamo Francesca Carla che ci chiama dalla provincia di Monza, Brianza. Buonasera. Oh, buonasera. Buonasera. Ho sentito anche quell'argomento lì, che cosa avete fatto per amore, no? Sì. E ho detto, beh, provo a telefonare, magari sembra una sciocchezza oggi, però pensandoci è stata una cosa per amore. Allora, molti anni fa, no, quando avevo circa 22 anni, avevo un moroso, no, che veniva a trovarmi la domenica pomeriggio fino all'ora di cena, poi tornava a casa, 18 chilometri circa, no? Sempre lì in Valle di Susa. E dopo cena, verso le 8:30 di sera, alle 20:30, e tornava e andavamo al cinema, eccetera, fino alle 11:30 di sera, poi tu lui tornava a casa. Ci ha raccontato la sua giornata con il suo moroso. Nel frattempo, una sera, no? Una domenica sera, e lui poi mi ha portato a casa alle 7, io mi sono messa lì, ho mangiato in fretta a cena, perché vivevo da sola, non avevo più genitori, e il mio moroso non entrava in casa, perché ero sola. Allora mi sono messa lì, ho preso un foglio protocollo, quattro fogli protocollo, ho scritto fitto fitto ti amo, quattro pagine. E poi la sera, prima che lui andasse via, gliel'ho messo nella tasca, no, della giacca. Sì. E certo, lui ha fatto molto piacere, eccetera. Ma dopo tanti anni, tantissimi, sì, una signora mi ha detto che mia suocera aveva trovato quel biglietto e aveva detto alle amiche: ah, oh, certo che è proprio innamorata di mio figlio, quella ragazza lì ha fatto questa cosa così. Ma scusa, ma cioè, era già il suo moroso, non glielo poteva dire a voce, non aveva il coraggio? No, perché era più bello, cioè mentre lui andava a casa, no? In macchina si doveva fare. Avrebbe avuto la conferma del suo amore, così scoprendola per caso. La sorpresa, no? Fino al martedì, poi non ci saremmo visti, non c'era telefono, non c'era cellulare, non c'era niente. Certo. E quella cosa lì è stata una cosa bella. Diciamo che Francesca, quello che lei ha fatto sarebbe stato come adesso si manderebbe un messaggino su WhatsApp dopo aver finito la serata insieme, e uno manda il messaggino dicendo ti amo, e lei gliel'ha scritto in quanti fogli? Quattro? Roba da bambini, però ricordando adesso è stato bello. Poi io l'ho sposato quello lì, vedi, ecco, e infatti adesso al 15 settembre sono 50 anni che siamo assieme. Fantastico, grazie. Tornati Francesca, indietro lo risposerei e gli riscriverei quattro pagine di protocollo. Riscriva allora. Grazie, buona serata. Buonasera. Fanculo a chi non ha mai colpa, a chi ha una scusa per tutto, a chi si è fatto da solo, a chi cerca pubblicità, a chi parla bene per moda e pensa male per moda, a chi si innamora solo per secondo, a chi va sempre di corsa e non è ancora arrivato da nessuna parte, ai conformisti da cortile e professori di vita, a chi lo dicono i numeri, a chi la crisi è passata, a chi sogna piccolo e si vive come un grande, a chi non crede alle favole ma ti fa sempre una morale, a chi non alza mai la testa se non per annuire, a chi lo vuole il mercato, a chi lo chiede l'Europa, a chi dice all'estero è tutto meglio e lo trovi sempre qui a lamentarsi. È la protagonista di una docu-fiction sulla strage del 2 agosto 1980 a Bologna, che verrà proiettata tra qualche giorno in occasione dell'anniversario in Piazza Maggiore a Bologna. Buonasera Valentina Lodovini. Buonasera, ciao. Ciao. E stiamo sentendo gli autori, tra l'altro, di credo una parte della colonna sonora del esatto, l'Istato Sociale. Sì, insieme a Paolo Fresu e poi insomma c'è esatto. Ciccio Dalla. Beh, insomma ci sono collaborazioni importanti, c'è anche un'apparizione di Guccini. Esatto, esatto, ma in veste di attore. Sì, cosa che ha fatto raramente, forse un paio di volte in passato. E un progetto insomma, importante, com'è stato far parte di questa cosa, Valentina? Guarda, è stato doveroso. Secondo me, almeno io la vedo così, è stato sia doveroso che appunto anche importante, perché è importante perché racconta la memoria storica del nostro paese, no? Sì. E quindi questo insomma gli dà un peso specifico bello, bello tosto. E io credo che insomma la strage di Bologna non va dimenticata, va raccontata. Certo. E soprattutto va raccontata senza retorica. Questo è stato poi l'impegno degli autori, no? Principalmente è stato questo e secondo me è anche riuscito, è una cosa anche questa importante, comunque colpisce. Adesso, almeno, secondo me. L'età delle donne non bisogna mai dirla, adesso io non entro, però tu eri piccolina, insomma, diciamo quando molto piccolina quando c'è molto, stata. No, ma guarda, tanto io l'ho sempre dichiarato, sicché si può dire anche adesso qua. No, io avevo due anni. Nel 1980 io avevo 2 anni. Quindi, sì. Insomma, non è una cosa che puoi ricordarti direttamente. Te, come molti altri ancora più giovani di te, certo. Cosa secondo te oggi tra i tuoi coetanei arriva di un fatto del genere, che però ha condizionato forse anche la storia italiana, una delle pagine sicuramente più buie del nostro recente passato? Ma guarda, io temo purtroppo che oggi questo è uno dei nostri problemi, secondo me, no? Non è che proprio siamo un popolo che coltiva la memoria, sicché credo che ai giovani di oggi forse non sanno quasi nulla, è per questo che io continuo a dire va raccontata, ma in generale tante cose che sono relative alla memoria storica del nostro paese, in questo caso la strage di Bologna, ma insomma va raccontata, io insisto tanto su questa cosa, perché comunque attraverso il passato si può comprendere il presente, no? Anche se rimane un mistero quella strage, no? Quella ferita, ci sono infatti, state è ancora molto aperta, sì. Ancora molto viva, perché però comunque è importante, perché comunque il passato potrebbe aiutarci anche a mettere la giusta distanza col presente, potrebbe farci riflettere per costruire un futuro, ecco, e temo che questa sia una cosa che ci manca. Tu a questo proposito che cosa personalmente hai capito di più sul 2 agosto 1980 di quello che invece sapevi prima, per esserti documentata, per averlo studiato forse a scuola addirittura, o insomma per aver letto i giornali eccetera eccetera, le inchieste, cosa hai capito invece che può essere interessante anche appunto da raccontare ai tuoi coetanei? Guarda, in realtà a me la cosa che mi ha colpito di più, perché appunto io da cittadina sono una che ci tiene tanto, poi tra l'altro una delle vittime, delle 85 vittime, era un ragazzo del mio paese, sicché comunque in qualche modo anche se ero piccola ne avevo sentito parlare, perché questo ragazzo di 21 anni è morto durante la strage, via dicendo, quindi vabbè, non ho scoperto purtroppo nulla di più, perché le cose che si sanno e non sanno, no, in realtà se le cerchi, quelle sono. Però una cosa che mi ha colpito tantissimo, sulla quale io non avevo riflettuto, per me insomma mi era un po' scivolata addosso, è stato l'umanità dei bolognesi, no? La dignità di questo popolo, la sua umanità, la sua prontezza, perché poi è una strage in cui proprio il popolo bolognese è intervenuto subito, immediatamente, no? Nonostante su TikTok, sì, naturalmente, anche le persone non coinvolte, perché poi non dimentichiamoci che ci sono 85 morti ma anche 200 feriti che insomma sono sopravvissuti e non immagino come, no? Perché lo shock di vedersi saltare la vita sotto i piedi, no? Credo sia una cosa che nessuno di noi riesca a immaginare, però certo, comunque la popolazione è intervenuta subito, proprio andando a scavare, portando aiuti, cioè quindi veramente, non so, mettendoci le mani, no? E quindi mi ha colpito questa cosa qua, perché, non so, a me appunto mi era un po' scivolata addosso questa umanità, questa, ripeto, dignità, non trovo altre parole, e poi anche quanto è viva tuttora, proprio per questo motivo, no? è ancora viva, dovrebbe esserlo per ogni italiano secondo me, però insomma per i bolognesi lo è, questa è una certezza. Beh, insomma, tanto gli incontri sì, ci ricordano perfettamente dove erano il 2 agosto, che cosa è accaduto, che cosa hanno fatto, che cosa hanno visto, e proprio non esistono cicatrici, non esistono neanche cerotti sopra questa immensa ferita, no? Questa docufiction, La linea gialla, è un'occasione, perché poi appunto verrà, ci sarà una rappresentazione proprio in Piazza Maggiore, quindi un momento per Bologna, ma forse anche non solo, è un bel momento, sì, 2 agosto. Dovrebbe esserlo per tutti noi, insomma, secondo me, però certo, sì, sicuramente per Bologna, cioè, sarà emozionante. Mm-hmm. Sì, cioè saremo lì domenica, appunto, domenica sera. Tutto il cast ci saranno, quindi ci sarà anche un'occasione magari poi per, non so se per parlare o comunque per, io credo soprattutto per godersi quello che è il prodotto dal punto di vista filmico. Senti, voglio chiederti però, esatto, anche un paio di altre domande, visto che siamo insieme. Abbiamo parlato poco fa di altri argomenti, sul fatto di questo declino del sud, sul fatto che i giovani che continuamente sono senza speranza. Tu 6 anni fa hai fatto questo film, Generazione 1000 euro, oggi cosa sarebbe? Generazione 500 euro? Stiamo calando? Oppure beh, purtroppo anche meno. Anche meno. Purtroppo anche meno, vedendo, no, il tasso di disoccupazione. Guarda, ci sarebbero una molteplicità di cose da dire, però io proprio facendo il film riflettevo mentre lo stavo facendo che poi la cosa, cioè uno dei tanti danni che fa la disoccupazione è togliere l'entusiasmo, oltre a quelli pratici e concreti che naturalmente sono molto seri, no, come tipi di danni. Ma anche togliere l'entusiasmo è altrettanto grave, no? Sì. Per cui questa è una cosa che ovviamente non ho soluzioni, però è un qualcosa che esiste, cioè in dubbio non possiamo negarlo, non possiamo far finta di niente, e servono soluzioni per il nostro paese. Per quanto riguarda il degrado, sì, io non capisco, secondo me, insomma, io continuo a pensare, sì, che l'Italia è il paese più bello del mondo, nonostante tutte le sue contraddizioni, no? Però è un paese fatto di province diverse, la diversità e ricchezza, secondo me, insomma, abbiamo un patrimonio. Beh, insomma, dei numeri ce l'abbiamo, dai, dei numeri ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, e come? Questo, e se li sapessimo sfruttare e anche proteggere, no? Perché in qualche modo usandoli li proteggi pure, proteggi la bellezza, no? Proteggi la storia. E già, adesso non è che sia semplice o facile, però già sarebbe un qualcosa. Sì. Molto, molto, molto importante. A proposito delle nostre ricchezze, della nostra bellezza, il cinema in passato è stato anche una risorsa, anche dal punto di vista lavorativo. A Cinecittà negli anni 50, 60, c'erano tante comparse, girava anche l'economia dietro al cinema. Oggi che ne pensi di questo? Cioè, può essere un motore anche dell'economia, oppure è solo una vecchia gloria quella del cinema per quanto riguarda l'Italia? No, io sono convinta che può esserlo tuttora, magari è meno considerato, no? Dovrebbe essere un'industria, cioè un mestiere il nostro, e noi dobbiamo produrre come qualsiasi altro tipo di industria. C'è un po' meno considerazione, si pensa che sia un po' tutto fiocchi, nastrini, divertimenti, no? In realtà non è così. Però si stanno smuovendo anche tante cose, cioè comunque per l'economia di un paese è importantissima anche l'esportazione, ad esempio. E noi stiamo esportando il cinema, magari poco, sicuramente 2 rondi non fanno la primavera, no? Mm-hmm. Però insomma ci sono. Vabbè, tu ne sei un esempio, tra l'altro hai appena ricevuto un premio, complimenti, cos'è, il Ciak d'Oro? Grazie. Sì, grazie. No, però no, cioè, ci sono tanti registi, autori o attori, insomma, che sono preziosi e che riescono anche, insomma, a vendere negli altri paesi, sì, che tutto questo ovviamente crea un giro importante. Non dimentichiamoci che abbiamo un Oscar da un anno. Eh sì. Sfruttiamolo questo momento buono, dai. Senti, ma non solo quello, però insomma. Dopo un film del genere, dopo una docufiction così impegnata, è una scelta di vita un po' nella tua carriera, o tornerai anche a fare commedie più leggere come hai fatto in passato? Guarda, io distingo i film solo tra belli e brutti. Brava. Per cui io non ho problema di genere, non ho proprio nessun tipo di problema con nulla. L'importante è che sia scritto bene, se è scritto male, quello già, cioè, no, per me io lo allontano. Se è scritto bene va bene tutto. Poi non so, io sono molto legata al cinema, sono convinta che può raccontare tantissime cose a persone diverse, sono convinta anche che i film invecchiano rapidamente, ma allo stesso tempo sono immortali, no? E possono raccontare cose su tutto, sull'amore, sul pregiudizio, sull'odio, sulla storia, possono far sognare, possono far ridere, sicché proprio c'è una visione del cinema molto, senza pregiudizi, molto molto aperta. E, quindi insomma ti rivedremo anche in ruoli sicuramente più leggeri. No, quello sì, però insomma per quanto riguarda il cinema civile credo che sia importante, io dico sempre, non è, sì, che noi attraverso il nostro lavoro possiamo cambiare il mondo, no? Ma farlo conoscere, questo sì. Un po' sì. Quindi mi auguro che comunque la nostra, che è una nostra tradizione anche quella, no? Quella del cinema civile comunque. Sì, che io mi auguro che continui anche questo, ma sicuramente affiancata anche no, a... Insomma, avete dato una mano con questo, la linea gialla. Grazie per essere stata con noi, un grande abbraccio a tutti, Valentina Ludovini, ciao. Grazie a voi, buona serata, ciao. Ciao, ciao. Beh, insomma, per un'attrice giovane che ha fatto carriera con film, diciamo, con commedie, impegnarsi in un film del genere, beh, è una scelta che va rispettata. 800 24 00 24. Paolo Corleone mi ha fatto un segno terribile che vuol dire non è finita la trasmissione. No, però c'è la pubblicità. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Allora, eccoci qua di nuovo. Buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. 800 24 00 24. C'è Fabio che ci chiama da Brescia. Buonasera. Buonasera a lei e complimenti alla trasmissione. Grazie. Io volevo parlare ancora sul discorso quando si fa qualcosa per sì. amore, per... Io vivo in un quartiere vicino a Brescia dove purtroppo ci sono un po' di problemi, un po' conviventi con i comunitari. Sì. Problemi un po' tirare fuori la gente di casa. Sì. E quindi il problema è proprio di fare rivivere anche un oratorio che, a cui io ci tengo tantissimo. Sì. E 2 mesi fa mi è venuta in mente una cosa che avevo un po' paura a metterla in piedi, però ho organizzato un torneo pallavolo in acqua. Pallavolo in acqua? Bellissimo. Una cosa da... cioè in una allora, piscina? È tutto strutturato in una piscina da 15 metri per 20. Sì. Ma si chiama pallanuoto quella lì, no? Sì, no, con 30 centimetri di acqua ci si devono nuotare. Ah, ok, ok, quindi solo i piedi immersi nell'acqua. Bravissimo. E la cosa è detto, boh, proviamo, ho raccolto un po' di preventivi di varie aziende, ho chiesto ovviamente il benestare del Don. Del Don. Sì, del Don, perché volevo tirare su un po' di vita in oratorio, perché abbiamo tanti giovani che li vedono tutto il giorno e non fanno niente. E la mia preoccupazione era appunto, ma vabbè Fabio, ma scusa, ma l'impresa qual è stata? Cioè l'impresa è stata organizzare il torneo. L'impresa è stata organizzare, io personalmente cercare di sponsor, perché comunque tutte le strutture, qualsiasi cosa che fai ovviamente hanno dei costi, e ho trovato tanti sponsor, 50 euro l'uno per... Hai trovato anche gli sponsor, ma la finalità qual era? Perché noi siamo partiti un po' con questa idea, no? Quando uno ha una grande idea in testa, poi riesce a fare come ha fatto Fabio Zaffagnini per i Foo Fighters. E anche lui si chiama Fabio. Si vede che è una cosa... E la tua grande idea qual era? La mia grande idea era appunto di portare tanta gente in oratorio per questo torneo, solo che a 3 giorni dall'inizio avevo solo 2 squadre iscritte. A 3 giorni dall'inizio cosa è successo? Ha piovuto, no? No, il tempo sempre bellissimo, avevo solo 2 squadre iscritte per questo torneo. Squadre, quindi hai fatto una sola partita praticamente. Avendo già pagato più o meno quasi tutte le strutture. E com'è finita? Male, Fabio? Finita con 24 squadre, con 6 gironi da 4 squadre. Cioè in 2 giorni poi hai messo su 24 squadre. Esatto. Bravo. E abbiamo fatto una settimana di festa. Bravissimo Fabio, grazie, da Brescia. Questo, cioè, è come dire, è un racconto un po' particolare, perché da un certo punto di vista fare giocare a palla all'oratorio è la cosa più banale del mondo, non è una grandissima impresa, tipo come hanno fatto a Cesena, che in 1000 hanno suonato per chiamare Foo Fighters. Però alla fine se sono arrivate davvero 24 squadre all'oratorio di Brescia, Fabio, complimenti. Gianni da Trapani, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Io volevo intervenire per quel discorso del sud, che è il declino del sud, insomma, in poche parole. Io sono una persona del sud, un uomo del sud, profondo sud, quasi, mi dico io che sono nord Africa, quindi uno del nord, in poche parole. Ho sentito molti commenti, ovviamente ognuno ha il suo punto di vista, soprattutto le persone che non sono mai venute qui sotto. Mi trovo molto vicino con De Vivo, mi sembra, il ragazzo che aveva il bar. Sì. Perché lui ovviamente opera realmente sul territorio. Sì. E com'è il territorio secondo te? Cioè tu gli dai ragione? Certo, anche perché questo ragazzo è un privato, non è, diciamo, non è il pubblico che dà un lavoro, è una persona che ha un'attività. Sì. E deve necessariamente avere a che fare con... il mercato sì. del sud. Va bene, ma tu per esempio Gianni che lavoro fai? Lavori? Io sì, ho un lavoro mio, mi occupo di informatica e anche io ho avuto, diciamo, problemi a recuperare forza lavoro nel mio. Ah sì? Ma è una cos'è? Una tua piccola azienda di informatica? Sì, è una piccola azienda di informatica, servizi informatici, sì. E stai cercando personale? Possiamo fare anche un annuncio radiofonico, eh? Possiamo dire il nome dell'azienda o no? Sì, si chiama multiservice. Multiservice. Vabbè, sì, ce ne saranno 100.000 di multiservice in tutta Italia, però sì. A Trapani, informatica e cercate personale. Io opero a Palermo, che è la prima città subito, perché sono in un paesino in provincia di Trapani, che è Salemi. Ma hai difficoltà a trovare personale qualificato o proprio in generale? Perché insomma, se siamo informatico cercherai informatici, gente laureata. Se ti occupi di informatica, sicuramente devi cercare personale che perlomeno insomma di base sappia di cosa stiamo parlando. Ma perché non lo trovi? Perché Gianni non lo trovi? Perché io mi sono fatto un'idea, nel senso che è un po' simile a quella di De Vivo, cioè di questo ragazzo di Napoli mi sembra fosse. Sì, tu pure che stipendio offri a queste tue dipendenti? Ma il problema non è questo, quando una persona ti arriva al colloquio dopo ti dice quanto mi dai, io rispondo spesso ma tu che sai fare? Voglio dire, io opero, ripeto, nel privato, il mercato è quello che è. Ovviamente, riconducendo al discorso di De Vivo, 800 euro che posso dare a una persona che inizia, un apprendista che inizia e che anche lui impara un lavoro, ovviamente, un mestiere, sì. E non sono 800 euro che percepisce una persona che abita a Milano, perché il tenore di vita è completamente diverso, e il mercato dove io opero è diverso. Sì. Se una persona riesce a farmi guadagnare all'azienda 100, io gliene do anche 90, 95. Però devi essere, ecco perché dico, tu che sai fare? Molto spesso, perché ripeto, io sono solo, cioè la gestisco, l'azienda è mia, ma io ci lavoro con tutti gli altri, non è che è mia, posso decidere a un certo punto di dare lo stipendio che voglio. Sì, ma una volta che ti hanno detto cosa sanno fare, quanto gli offri di stipendio per capire? E quanto si lavora da te? Intanto, vabbè, il lavoro è molto semplice perché bisogna saperlo fare, bisogna avere la passione. Vabbè, se non si può dire, non si può dire, Gianni, allora questo è un altro discorso. Sì, se ce lo vuoi dire, ce lo dici. 800 euro con i contratti, perché adesso per la legge pure c'è un sacco di cose. 800 euro sempre come prima, sembra che vi siete messi d'accordo. Netti, scusa, netti. Significa che a noi costa qualcosa, quasi il doppio. Sì. Utilizzando anche meccanismi che uno viene da te e impara anche un lavoro diversamente dal barista, che dove forse c'è un aspetto minore di qualifica. Qua da te ci sono persone che fanno stage gratuiti nelle aziende, quindi se tu hai un'attività che funziona, in effetti venire a 800 euro al mese come inizio può essere un inizio positivo. Grazie Gianni, siamo arrivati finalmente, abbiamo i titoli della 7. Vai. Non risale l'occupazione ma la disoccupazione. A giugno persi 22.000 posti di lavoro, tasso al 12,7%, dice l'Istat. E tra i giovani la percentuale arriva al 44,2%, il livello più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1977. L'unica cifra positiva è la diminuzione degli inattivi. È finito l'effetto Jobs Act e decontribuzione? Il governo guarda i dati con prudenza, siamo di fronte a una fluttuazione. Renzi prende per la prima volta la parola sui casi Azzolini e Rai, difende i senatori del suo partito, non sono i passacarti delle procure. Chi ha letto i verbali dell'inchiesta non ha escluso il fumus persecutionis. Poi avverte la minoranza che ieri ha mandato sotto il governo sul canone Rai. Abbiamo i numeri in Senato, ognuno si assuma le sue responsabilità. In esclusiva questa sera vi racconteremo gli interrogatori di Salvatore Buzzi, il principale inquisito insieme a Carminati dell'inchiesta Mafia Capitale, rivela il diffuso sistema di corruzione della politica romana e laziale in cambio degli appalti appunto alla regione, al comune, rigidamente trasversale da destra a sinistra con le percentuali, i nomi nuovi dei corrotti. Ecco qua, allora, cari ascoltatori, chi sentiamo? Abbiamo Enrico che ci chiama da Mantova. Buonasera Enrico. Sì, buonasera, volevo fare anche i complimenti per la trasmissione. Grazie ecco, mille Enrico. Io volevo intervenire proprio a proposito della questione del signor De Vivo, della sua offerta di lavoro. Sì. Considerando che siamo nel sud, come diceva anche prima l'altro radioascoltatore, dell'intervento, che forse ci sia anche un'altra, nel sud c'è anche un altro, cioè altre esigenze economiche forse anche inferiori rispetto al nord. Ecco, io voglio portare proprio l'esperienza di mio figlio, che si è appena diplomato come elettrotecnico, dopo 2 mesi di stage in un'azienda lo hanno, tra virgolette, assunto, cioè lo avevano promesso che lo assumevano, invece l'hanno tenuto 2 mesi in nero a lavorare per 500 euro al mese, 9 ore al giorno, e in questo mese, in questi 2 mesi ha lavorato anche 4 sabati. Cioè, se poi consideriamo, se vogliamo parlare di sfruttamento, io credo che questi non sono più livelli di sfruttamento, ma sono proprio livelli delinquenziali. E poi dopo questi 2 mesi lo hanno lasciato a casa? No, a questo punto qua lui, poverino, si è trovato costretto a fare una decisione, e anche col mio aiuto gli ho detto vabbè, basta, stai a casa, perché sennò tu un lavoro, tra virgolette, serio, vero, non lo cerchi mai, perché se un ragazzo mi impegna 9 ore al giorno... Quanti anni ha suo figlio? 21. 21. Se uno è impegnato 500 euro, giorno, 500 euro netti al mese, 500 euro mensili. Però mi scusi, allora, da un lato mi viene da dire che certo rispetto al bar è anche meno, quindi tutto a merito di De Vivo, che ne dava di più, forse infatti, anche 1000. Cioè, dall'altra però mi viene da dire, per suo figlio, in questa azienda suo figlio imparava qualcosa? Stava imparando qualcosa, un lavoro? Allora, mio figlio ha imparato, ecco, questo io volevo aggiungere. L'unica nota positiva in tutto questo è che nel frattempo mio figlio, anche se per brevissimo tempo, ha un'esperienza anche utile, cioè l'esperienza non più quella scolastica, ma quella di lavoro, mondo il primo lavoro era questo, ecco. E sta imparando qualcosa. Forse può lavorare ancora qualche tempo lì e continuare a imparare. Ma guardi, io le dicevo, l'esperienza di mio figlio, siamo d'accordo, ma la cosa ancora più drammatica in questo luogo di lavoro è che c'è gente da 4-5 anni guadagna 500 euro al mese. E secondo me dopo 4-5 anni non possiamo più parlare di fare esperienza nel mondo del lavoro. Uno poi rimane lì fermo tutta la vita con degli stipendi quindi... da fame. Ha ragione lei, su questo ha ragione lei. Va bene, grazie Enrico, vedi come tutto è relativo. Giuseppe da Caltanissetta, buonasera. Sì, salve, buonasera. Prego. Anche io chiamavo in merito alla questione questa qui meridionale, no? Sì. Io vivo in un paesino proprio di quelli là, sai, che si vedono alla televisione quando vogliono fare del populismo su questi canali privati, no? E quello che penso io è che innanzitutto bisogna fermare l'assistenzialismo, perché io mi rendo conto come in questi paesini si viva da assistenzialismo da anni, capito? Sì. Il problema è che è questo qui, e il fatto è che l'aspirazione massima di una persona che vive in uno di questi paesini è, che le posso dire, entrare possibilmente a lavorare al lato rifiuti. Che detto da uno che ci vive al sud, che bisogna fare la finita con l'assistenzialismo, non è male. Sì, perché guarda. Lei che lavoro fa, Giuseppe, se posso dire? Io sono un chimico farmaceutico, io ho cambiato tantissimi lavori con la mia laurea, adesso faccio l'informatore scientifico. Sì, e se la cava, insomma, col lavoro, va abbastanza bene. Sì, però il mio lavoro dipende da dei fatturati, come è giusto che. Sì. Lei lavora quindi nella sanità siciliana, se vogliamo. Sì, io... La famigerata sanità siciliana. Come va con la sanità siciliana? Beh, guardi, io le dirò che la sanità siciliana si viene sempre bersagliata, però possibilmente sono le dirigenze e gli ospedali che vanno male, perché noto che vedo tantissimi medici che tendono a risparmiare, tendono a non far pagare al cittadino, però qui è passata la convinzione che lo Stato deve per forza togliersi dai guai. Cioè, del tipo che se tu a 30 anni ti sposi e lasci incinta tua moglie, tu vai al comune, dal sindaco, a cercare di dire ma io voglio lavorare, io voglio fare, e poi il politichino di turno ti fa lavorare chi nella raccolta rifiuti, chi in questi vari enti, adesso ci sono messi anche tutti questi enti per extracomunitari. Insomma, il messaggio che arriva da lei, da Caltanissetta, è stop con l'assistenzialismo, ripeto, che detto da lei è ancora più valore. Grazie. Mario da Piacenza. Sì, buonasera. Buonasera. Grazie per avermi chiamato, la trasmissione è veramente interessante. No, io volevo dire solamente questo, io ho da fare con molti giovani perché facciamo manutenzione industriale, cerchiamo personale. I problemi sono due, secondo il mio punto di vista. Uno, che chiaramente se il barista dà 800-900 euro al ragazzo ne deve dare altrettanti allo Stato come minimo. Sì. E secondaria cosa, ammesso che faccia tutto in regola, qualche dubbietto c'era, perlomeno supporlo, sì. Ecco. E poi un'altra seconda cosa, che specialmente nel sud, se uno riesce ad andare o in disoccupazione o in mobilità, e allora ti saluto, chi ha più voglia di lavorare. quello che prendono in mobilità è 200-300 euro o meno di quello che può essere uno stipendio. Oltretutto nel sud, con statuti speciali, hanno una mobilità che è la doppia di quello che c'è nel continente, come diciamo solitamente. Insomma, c'è qualcosa che non va veramente. Lei, ma lei non ha capito, lei ha una ditta sua di manutenzione? No. Lei lavora per una ditta? Sì, lavoro per una ditta. Sì. E, diciamo, le posizioni sono tutte occupate? Ormai sono in pensione e devo anche lavorare per essere in pensione, oltretutto. Come deve lavorare per essere in pensione? Certo. Deve arrotondare? Ecco, coi figli che lavorano tanto e non guadagnano niente, da cercare di aiutarli. Sì, e come fa a arrotondare? Ce lo vuol dire che lavori? No, niente, dal lavoro, sono consulente, nessun problema. Tutto regolare, tutto in busta, pago un sacco di tasse e va bene così. Va bene, però, grazie. Sempre grazie. Nel nord. Buona serata. Luca da Vercelli. È pronto? Prego. Pronto, buonasera. No, io volevo intervenire, non so se ne abbiate già parlato perché purtroppo non ho dovuto spegnere la radio, relativamente a quel barista, chiamiamolo così, di Napoli, sì, che diceva che voleva assumere quei ragazzi a 800-900 euro. Ecco, ho sentito le critiche dicendo che gli ascoltatori hanno detto che è uno schiavista, eccetera. Però ritengo che avrebbe applicato sicuramente i contratti collettivi che regolano il rapporto di lavoro subordinato tra un datore di lavoro e il... Ma lo ritiene, scusi, lo ritiene perché lo sa o perché... Perché lo so, perché faccio il consulente del lavoro. Perfetto, quindi diciamo per un barista è quello. Il minimo contrattuale per un barista di un livello basso, evidentemente, non capo barman... il netto in busta si aggira su quelle cifre. Però con quel tipo di orari, cioè 8-9 ore per 6 giorni a settimana, possibile? 8 ore al giorno, certo. Per 6 giorni? Per 6 giorni, 48 ore a settimana. Ok, vedi che non è niente di diverso. Infatti mi sono permesso di telefonare per dire che, povero Cristo, lui fa di tutto per assumere i giovani e purtroppo questi sono i contratti collettivi, considerando sempre che al datore di lavoro gli 800 euro in busta al lavoratore costano 1.300-1.400. Diciamo che, ripeto, che una situazione del genere può andare bene se uno è all'inizio, esatto, se sta imparando un mestiere. Poi piano piano se diventi barman, assolutamente si aumenta di livello, aumentano le mansioni. Non so se non ci metterà la mano sul fuoco, che sempre c'è questa progressione. Può darsi che ci siano camerieri anche di 40-50 anni con quegli stipendi. In quel caso è veramente una miseria, perché come fai ad andare... Sono d'accordo. Diciamo che la legge prevede degli scatti di anzianità fissi da contratto collettivo, che non sono molti, devo dire. Effettivamente non c'è un aumento di retribuzione così elevato. Però torniamo sempre al discorso. Parliamo di gente che attualmente è disoccupata. Da 0 a 800 euro, secondo me, è un bel salto comunque. Grazie, buona serata. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Se tutto ciò che cerco nasconde un movimento, quale destinazione può incontrarci? Se in tutto ciò che inquadro il senso è già sfocato, qual è l'angolazione per fissarci? Strade che si lasciano guidare forte, poche parole, piogge calde e buio, terci cristalli e curve da drizzare, strade che si lasciano dimenticare. E lei è lei, la giovane ragazza italiana di Ercolano, che è riuscita a mettere in scacco niente po' di meno che Angela Merkel, la Germania, su un tema abbastanza popolare come i pedaggi autostradali. Una storia curiosa, protagonista è Annarita Amoroso. Buonasera Annarita. Buonasera a tutti, buonasera ai radioascoltatori. Allora, 28 anni, ne ho laureata in scienze politiche all'Università Federico II di Napoli, giusto? Sì, giustissimo. Autrice di una petizione inviata al Parlamento europeo che ha così inteso denunciare l'irregolarità di una proposta che stava arrivando dalla Germania, che riguardava proprio i pedaggi autostradali, e alla fine, dopo un anno circa e mezzo di attese e di cose burocratiche, hai avuto ragione tu. Ci racconti? Sì, allora io ho inviato a gennaio 2014, quando era presidente della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, una petizione la dottoressa Erminia Mazzoni e lei ha subito immesso in ruolo, mi hanno subito assegnato un protocollo, mi hanno inviato una lettera a casa. Perché è previsto che i cittadini europei possano fare queste petizioni. Sì, è previsto dai trattati e quindi ho esercitato semplicemente un diritto che mi spettava. Che magari in pochi sanno, che magari in pochi conoscono, perché anzi... In pochi, pochissimi conoscono. Cioè ci si lamenta che l'Europa non funziona, è lontana dai cittadini, invece tu zitta zitta, quacchia cacchia, tranquillamente sei andata lì, hai scoperto che si poteva fare, l'hai fatto. Sì, l'ho fatto e quindi ne sono fiera, ho esercitato un mio diritto, semplicemente questo, non ho fatto nulla di straordinario. Mm-hmm. E qual era l'oggetto della petizione? Raccontaci. Il testo della petizione prevedeva la denuncia nei confronti del ministro dei trasporti tedesco, che è anche il segretario del partito della Merkel. No, mi viene da ridere perché una singola cittadina di 26-27 anni, allora quanti ne avevi, che fa una petizione contro il ministro dei trasporti tedesco, vuol dire che hai una certa visione delle cose, quindi contro di lui perché? Perché lui aveva, in pratica, in base alle pressioni che aveva ricevuto dal governatore della Baviera, ci ha messo un anno a creare questo escamotage, cioè far sì che sulle autobahn tedesche pagassero gli stranieri, in realtà pagherebbero anche gli tedeschi, però poi allora alla fine dell'anno ci darebbe lo sconto sulla tassa di circolazione, ed è quella la discriminazione sulla nazionalità. Cioè, allora, spieghiamo bene, tu c'è questa proposta per cui i tedeschi come gli stranieri... La legge è stata approvata a giugno ed è stata anche pubblicata in Gazzetta Ufficiale Tedesca. Ok, quindi è già passata 2015. La legge per cui si pagano, che differenza dal passato, i pedaggi autostradali, solo che i tedeschi alla fine dell'anno hanno sgravi. Hanno il rimborso della tassa di circolazione. E quindi, diciamo, sarebbero più o meno 130 euro l'anno per loro. E quindi pagherebbero meno invece di quello che pagherebbero gli stranieri? Sicuramente, no, gli stranieri però il rimborso non è previsto, esatto, perché non vivono in Germania. Quindi non essendoci questo rimborso, questo crea una discriminazione. Tu su questo hai puntato il dito? Sì, anche su questo, ma poi io so che la Commissione europea era già in contatto con la Germania da quando la misura era stata annunciata all'interno del programma elettorale della... C'era già un po' di sospetto, perché sospetto, ma non c'era una denuncia ufficiale, mia poi è stata, come dire, ci sono ancora i contatti con la Commissione, stiamo aspettando la risposta della Germania alla lettera di Messe in mora e poi la Commissione farà le considerazioni. Ecco, però Anna Rita, quindi diciamo la tua petizione, stiamo ripercorrendo tutta lo storico, ha dato esito a una risposta della Commissione che ha detto esattamente che avevi ragione tu e ha scritto alla Germania. La Commissione petizioni del Parlamento europeo mi ha risposto a fine febbraio 2015 e mi diceva che la petizione era considerata ricevibile. Sì. E essendo considerata ricevibile, trasmetteva gli atti alla Commissione europea per un'indagine preliminare. La Commissione europea poi mi ha inviato un'altra email questa volta e mi diceva che non appena l'atto fosse stato pubblicato, pubblicato in Germania la legge, loro avrebbero agito. Sì. La legge è stata approvata dal Parlamento tedesco a giugno, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale qualche giorno dopo e quindi loro hanno inviato subito la lettera di messa in mora, hanno subito avviato la... Quindi la Commissione europea ha scritto alla Germania intimandoli che questa cosa non si può fare perché è una discriminazione nei confronti dei cittadini stranieri in un contesto invece dove queste discriminazioni non ci possono essere. Sì. E quindi ha fatto esattamente quello che dicevi tu. Complimenti. Grazie. Ma tu com'è che ti sei attenzionata, per usare una parola diciamo da verbale di polizia, no? A questo tema qua? Cioè, tu stavi studiando scienze politiche, che te ne veniva a te delle autostrade tedesche? No, nulla, infatti io vorrei chiarire questa cosa, molti mi hanno definito antitedesca, io non sono assolutamente antitedesca, anzi io con la Germania ho un bellissimo rapporto. Cioè ti sta a cuore la giustizia, forse? Sì, io l'ho già detto alla stampa quando mi hanno intervistato. Io ho un grande debito verso la Germania perché mia madre è stata operata da un medico tedesco, quindi dire che io sono antitedesca mi sembra un po' troppo semplicistico e quindi, come dire, per me era una legge ingiusta, loro si definiscono europeisti per eccellenza, bisognava dare una lezione a questi europeisti, cioè l'Europa sul fatto che i tedeschi, la Germania si definisca europeista per eccellenza. Insomma, si potrebbe aprire un dibattito, come sai, dopo la questione Grecia, eccetera. No, ma era solo una battuta, Annalita, era solo una battuta. Complimenti, perché non è da tutti, insomma, e tu hai dimostrato che si può fare, che è il titolo del nostro programma. Ciao, in bocca al lupo per il futuro, in bocca al lupo per il tuo futuro. Sei una giovane laureata in scienze politiche, hai dimostrato di avere le carte in regola per fare chissà che tipo di carriera. È un modo anche per rinobilitare un po' il sud, visto che oggi abbiamo parlato così un po' del sud. Questa ragazza viene da Ercolano e ha messo appunto in scacco il ministro dei trasporti tedesco. Metteteci un toppino, è così. Andiamo con Giuseppe da Roma, siamo in chiusura, buonasera. Sì, buonasera a tutti quanti, sarò breve allora. Dunque, qualche giorno fa leggo di questa notizia dell'incendio dei rifiuti che ha creato problemi, caos all'aeroporto di Fiumicino. Mi è tornata in mente una storia d'amore. Anni fa conosco una ragazza canadese in camping, la porto a cena al centro di Roma. Dopodiché, mentre eravamo in Piazza Farnese a fare una passeggiata, fine estate, quindi un clima molto bello, davanti all'ambasciata all'angolo vedo un carrettino di questi che usano, tipo una carriola, no? Questi che usano gli operatori ecologici per raccogliere le piccole immondizie per la strada, no? Carte, chip, eccetera. Sì. E mi ricordo le parole di un amico che mi ha detto: tu non sei bello, non sei ricco, però sei molto spiritoso. Se una donna la fa ridere, vedrai che in qualche modo la conquisti. Allora che faccio io? La invito e lei sale, perché accetta il gioco, sale dentro questo carrettino che per fortuna non aveva una catena che lo legasse, e ci facciamo tutta la stradina che fiancheggia l'ambasciata di Francia in Piazza Farnese fino a Via Giulia. E io per la strada, mentre scendevamo, la strada un po' in discesa, le cantavo: Roma non farà stupida stasera. Cioè, scusi, allora un momento. Abbiamo iniziato a ridere come pazzi tutti. Me lo immagino, ma scusi, ma la scena... Gli ultimi 20 metri li abbiamo fatti di corsa, e quando è finito giù la discesa non facevo nemmeno un tempo a frenare, siamo andati a sbattere contro una specie di fontana che sta disastro la strada. Ci siamo dati un bacio pazzesco ed è iniziata una storia d'amore fantastica che ancora, se ci pensa, ancora ci dito sopra, caro Maurizio. Tutto qua. Vabbè, questo era d'obbligo. Sente. Ah, che meraviglia, bravo, sei bravissimo Maurizio. Rocco, scusa, no, il tuo. Sono, no, aspetta, come si chiama l'ascoltatore? Giuseppe, ho fatto confusione. Giuseppe, complimenti, no, a te, perché... Ma io non ho capito, tu guidavi il carretto dei rifiuti, sì, e l'hai messa sopra, e mentre li cantavi Roma non fa la stupida stasera? Sì, quello dell'immondizia. Ma no, non ci sono più però questi carrettini. Ho nobilitato la carriolina. Giuseppe, però, non ci sono più l'amore. Adesso, non si potrebbe più fare questa cosa, perché adesso sono solo mezzi elettrici, o sbaglio? Ma l'amore non torna mai due volte, una volta sola. Io non lo so se questa storia è vera, ma se questa storia è vera, redazione... È vera. È vera, Maurizio, è vera. Allora, Giuseppe, vai. A te il premio, la mini guida di Expo. Grazie, mi fai un gran regalo. Ti faccio dei complimenti che non sono rituali, credimi. Vabbè, adesso che hai vinto è facile. Grazie, ciao, buona serata a tutti. Ciao. Riccardo Buccero, Cristian Goldoni, Leonardo Siligato, grazie a Gala, Andrea Piana, naturalmente Paolo Corleone in regia. È finita la prima settimana insieme di Si può fare estate, il programma che ritroverete in autunno alle 7.30 della mattina il sabato e alle 8.30 la domenica. Che dire, ci sentiamo lunedì prossimo, 18.20.30 in orario estivo. Buona serata a tutti, Alessio Maurizi, ciao. Ciao, con Carlo Gabardini, lo annuncio sulla sigla. Ciao.